vorrei sapere se vi rendete conto del linguaggio che voi adoperate. Sì, e non ce ne frega un cazzo, Camillo, sì, non ce ne frega. Tu pensi che i tuoi colleghi non utilizzino solamente il linguaggio formale, quello da ufficio, eccetera, eccetera? No, escono fuori, scoreggiano, ruttano, scopano. Probabilmente sarà anche laureato lei, si dovrebbe vergognare, guardi. Ma ti devi vergognare tu e le persone... Io tanto non gli ho dato del tu, lo sto dando del lei. Comunque lei, ma non me ne frega un cazzo di quello che mi dai. Io ti do del tu, io ti do del tu come do del ti a tu. Un linguaggio così scurrile. E quale sarebbe il linguaggio scurrile? Non ho capito. Quale sarebbe? Che dite, potreste evitarvele perché non c'è nessun motivo. E allora spegni la radio, non ci rompere il cazzo, no? Molto semplice, cioè, allora, spegni la radio, non ci rompi il coglione. Io ti lo vedi, lo vedi tu, del tuo figlio della mignotta. Ma scusa, non bisogna dire le parole. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Non ho detto gioia. Pronto? Bernarda? Piper! Bernarda? Ma tu puoi fare quella meba senza coglioni di bruciare. Bravo, Bernardelli. Tu sei bravissimo. Testimonianza della legge Basaglia. E il tuo compagno di merende, quello scappellato. Scappellato di parte. Il tuo pensiero. Ma io ho detto che quanto una scorretta. Ma io ho detto che ha ragione, scusa. Perché? Parenzo, no, però scusa, il tuo pensiero vale quanto una scorretta lanciata nello spazio. Scusi, però. Domanda qualche astronomo quanto vale. Io l'ho difesa, ho detto che lei ha ragione, la trasmissione va chiusa e lei io mi attacca, ma vaffanculo, vaffanculo Bernardelli! Questa cosa pirote. Come io sono iscritto bellissimo un solo centesimo di quello che ti pago, certo, di iniziare il tuo stipendio, restituiscimelo. Ti abbiamo coinvolto qui, hai avuto il tuo grande momento di gloria. Hai mai sentito una scoreggia vaginale quando hai dei rapporti sessuali, se ancora riesci ad avere dei rapporti sessuali oppure no? Guarda, stai tranquillo che ne ho più di te. Ma figuriamoci, cioè, figuriamoci. Più di me non so quantificare. No, guarda, ne ho sicuramente più di te. Stai tranquillo, puoi metterci le palle sul fuoco. Fino a che l'uccello tira, si scopa. Collegamento da Roma, David Parenzo. Buonasera, buonasera cari amici. È una tragedia, siamo inizio settimana, inizia la zanzara, è una giornata molto triste. Ma nonostante ciò, due notizie al volo dall'estero. Londra in lockdown da mercoledì, chiusi bar e pub. Il ministro della salute inglese dice: qui una nuova variante del virus. E poi ancora a New York, dove si prepara la chiusura totale. David Parenzo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. In collegamento da Padova, Alberto Gottardo. In ottima salute, nonostante gli accidenti che mi arrivano attraverso i social da quella mamma base mia malata di ascoltatori della zanzara. Allora, ragazzi, vostra tie e tie. Hai detto delle cose vergognose. Allora ragazzi, la cosa più incredibile, scusa, la cosa più incredibile è che gli italiani non ci capiscono più un cazzo di cosa succederà per forza a Natale. Confusione. Ma non per forza si capisce è colpa tua più ma un ogni cazzo giorno dai notizie false. Fermo, mentre in altri paesi decidono una linea, la signora Merkel decide una linea, no, la chiusura certo, che certo poi non è il lockdown, sì, è il lockdown come da noi a marzo, non è questo, decide una linea e quella si fa. Ma tu da non noi, volevi tutto aperto, da scusa noi, aspetta, ma tu non volevi aspetta, tutto aperto giù, da non noi, eri quello giù, da noi il governo si spaventa per gli ma assembramenti per del fine settimana voi, per gente come voi si spaventa, cioè prima tu lasci che la gente esca, trasformi tutta l'Italia in zona gialla, cioè praticamente puoi fare quello che vuoi fino alle 18 con tutto aperto eccetera eccetera, e poi ti spaventi per qualche piccola immagine delle persone che camminano tutta in un Italia corso, che stanno in una piazza, che si siedono sui tavolini. Ma di che stiamo parlando? Cosa, quali leggi avrebbero violato queste persone? Quali ma normative? il buon senso hanno violato. Ma non il buon dire senso. Cazzate, cioè, è permesso fare te, shopping, è permesso fare l'aperitivo, è permesso pranzare. E allora perché ci si stupisce che la gente poi lo faccia? Con la mascherina, tra l'altro, la maggior parte di quelle foto che avete visto degli assembramenti erano persone che camminavano. Camminavano dove non succede un cazzo se cammini con la mascherina. No, ma vi dovete vergognare! Hai fatto il cashback, tra l'altro. Cioè, incentivi la gente a fare gli acquisti nei negozi, è come incentivare un toro con il drappo rosso. Dopo dire, cazzo, il questo toro è partito. Ma sei a Pamplona? Dai, sei a Pamplona dire, e partono i tori, no? Dai, ma non ho capito cosa siete. Voi dite tutto il suo contrario, proprio. No, ma cosa diciamo? Tutto il suo contrario. Noi dite, stiamo parlando del governo. No, cioè, no, stiamo parlando del governo che improvvisamente si preoccupa per le ma immagini che sono arrivate. Ma hanno sempre detto no, gli assembramenti, no, sempre. Ma quali assembramenti? Poi su pressione delle regioni, ma di Gentaglia come voi, vai, Gentaglia come voi che diceva no, non c'è la seconda ondata, non c'è pericolo. Da Fazio che dice non ci fate più vedere le immagini di assembramenti. Arcuri, innanzutto devi andare in mezzo alla strada a vedere se effettivamente erano assembramenti o no. Sì, è vero, la gente è in mezzo alla strada. Mi hai ma qual è il problema con la mascherina? Certo, ti ho chiamato dicendo che era detto, pieno di gente. Meno male, certo, l'economia ricomincia a funzionare. Ma perché se vuoi chiudere tutto, fai come la Merkel, cacci fuori i quattrini, cacci fuori. Mamma mia, Arcuri, mamma vai. Mamma. Se vuoi chiudere tutto, fai come la Merkel, cacci fuori. Ma chi se ne frega? Daranno i quattrini. Daranno i quattrini. Vai a cagare. Come ti piace chiudere la gente, come no, ti piace no, non mi piace, ma mi fa paura quello che sta avvenendo, ma la tua paura, irresponsabilità. Perché ti ma io sono uscito, ma io non mi cago, sono uscito. No, ma io sono anche andato a pranzo fuori la domenica. Senti, Arcuri da Fazio, senti, non ci fate più vedere le immagini. Non ci fate più vedere le immagini di oggi. Quali con gli assembramenti nelle strade, nelle ma piazze. Pensate che il desiderio sacrosanto di tornare alla normalità deve aspettare solo un altro po'. Serve un vaccino per tornare alla normalità. Scusami. Arriviamoci nel modo più regolare. Scusami, Arcuri, ma se tu per carità, non sei tu il governo, eccetera, se tu consenti alla gente di uscire per strada, ma di con uscire buon per senso, se vedi un casino, ma cosa vuol dire casa? Con buon senso? Cosa vuol dire la gente va per strada con le mascherine? Non è che sta là a baciarsi e a pisciarsi addosso. Scusa, ma di che parliamo? Mamma cioè, ma roba incredibile. Poi, tra l'altro, Arcuri, ma tu questa cosa incredibile l'avete sentita? Voi immagino di sì, avete letto qualche sito. Oltre a non avere fatto un cazzo per due giorni, avete sicuramente visto questa idea folle pazzo, di fare scritto. I padiglioni, di fare i padiglioni con i fiori le primule, per vaccinare le persone. Ma, sì, sì, ma ragazzi, sì, ma che roba un'idea, è fotovoltaici. Ma che roba mi è? Un'idea, ma perché? Ma che bisogno c'è di fare i padiglioni per vaccinare la gente è con le primule? Una grande ma expo che roba, sanitaria. Perché tutto è comunicazione? Ma va bene che è comunicazione, ma perché uno deve fare è i padiglioni? Tutto fuffa, a parte spendere fuffa. Soldi, ci sono tutto già gli ospedali, cioè, ci sono già un miliardo di posti. Ci sono dei percorsi alternativi da fare. Quindi il padiglione forse senti, può essere senti, un senti, modo. Senti come è felpato quando deve criticare il signor Arcuri. Può essere diletto. Un modo su, per dai. Cioè, bisogna un attimo ragionare, ecco, approfondire va, la sua supercazzola. Sentiamo Arcuri che annuncia questa grande idea, i padiglioni con i fiori. Io padiglioni ho visto i padiglioni, i posti dove faranno in Germania il vaccino e sono dei posti normalissimi, dei posti normali dove ci sono delle stanze dove la gente si vaccinerà, faranno 7000 vaccini in un posto, adesso non mi ricordo ogni tu non so quante vaccino ore. Vaccino immediatamente dai, io. Su, tu dai. Fa achtung, achtung. Tu fa vaccino proprio io. Tu. E l'immagine fortissima di questi fiori che immagine fortissima tagliano senti nelle nostre belle piazze. Bella immagine, belle immagine fiori, belle. Delle piazze ci fiori lascia vai, diciamo ancora più convinti sì questa è una bella immagine ma quale bella immagine luce il fondo al tunnel comincia ad intravedersi il fiore che sboccia una nostra speranza un paese. Dai, ma tu sei in un paese qui in Lombardia non ci sono neanche i vaccini per coprire tutti per l'anti-influenzale e pensi alle primule voi siete pensi degli sfascisti alla bella immagine nelle belle piazze. Ma dai, cioè, per favore. Ma dai, sì, patetico, un fiore dai, che sboccia patetico, di speranza dai, e sì, di futuro dai. Per il allora, paese. Porro è quello che voleva andare a sciare, giusto? Porro. No, ha detto che era giusto far sciare le persone. Ha detto che era giusto far sciare queste persone. Ma qual è il problema? Non ho capito. Perché dicevo andare a sciare. La cosa più sicura del mondo è sciare. La cosa più sicura assembramenti delle zone sciistiche. La gente ammassata degli alberghi e poi i pulmini che ti portano sulle piste da sci. Perché non tutti hanno fanno il Cayenne come c'ha lui per andare sulle piste. Quelli che hanno deciso di chiudere gli impianti Germania, Francia, hanno dato i quattrini, hanno dato i soldi da anche noi li daremo, sono anche in mezzo a una strada, non forza. Possiamo dare un cazzo a questi qua, a questi danno il 75, l'80, il 90%, qualcuno dice addirittura il 90% in alcuni paesi, il 90% del fatturato. Ha ragione, guarda, da noi scrive, sono con le pezze al culo, vergogna. Il grande Viale, il grande professor Viale, storico militante radicale, grande medico delle Molinette di Milano, mi dice quelli che per Viale strada di Torino. Sì, Viale di Torino, certo. Allora, di Milano hai detto, che cazzo dici? Dai, no, forza. No, Viale di Torino, vabbè, allora, il Molinette di Torino, ma che scherzi. Allora, dai, forza, allora. Mi scrive il grande Viale, quelli che per strada dicono che c'è troppa gente in strada, dovrebbero spiegare perché loro sono lì per strada, perché loro e non appunto, gli altri sono lì per strada. Esatto, bravo, per quelli Viale. Che lo dico. Ma loro bravo, sono lì dice per strada, che dico c'è ragione. Io, no, dice ma quello non che dico no, io. Impossibile, dice quello che come dici no? Tu dici solo sciocchezze qualunquiste, porcherie. Arcuri, senti, no, scusa, Porro su Arcuri, senti. Porro. Arcuri va in televisione e dice la seguente frase: non mi fare vedere quelle orribili, quegli orribili assembramenti, non sì, me li fai vedere per le strade e nelle piazze. Cioè Arcuri dice: non mi fa vedere quegli orribili assembramenti nelle piazze e nelle strade. Sì. Arcuri! Toc toc! Fino a prova contraria, gli italiani ieri hanno avuto il primo giorno di libertà. Vero, alcuni italiani. Molte ragioni, è vero. Sprizzava libertà l'Italia ieri. Grande libertà. Sprizzava virus. L'Italia virus ieri sprizzava libertà. Libertà, sì. libertà. Se tu dai libertà alle persone, Zaia, le persone se la prendono Zaia, la libertà. Presidente del Veneto, ma chi se ne frega? Ma non è il mondo, Papa. Non è il Papa, per fortuna. E nemmeno il Papa da noi ha autorità. Mondo. Bravo il presidente Zaia. Bravo, ma cosa significa? Zaia. Ma che vuol dire spettacolo immondo? Zaia. Ma cosa vuol Lega, dire spettacolo immondo? Assembramenti per shopping e aperitivi, spettacolo cioè, immondo. Tu fammi capire, tu dai la possibilità alla gente di spendere a Natale e riavere una parte dei soldi sì, indietro, ma vuol dire apri i negozi, togliersi la mascherina, prolunghi l'orario, ma cosa c'entra? Ti ma cosa c'entra? Ma chi? Comunque io sto a quello guarda che dice Zaia. Io cito Zaia. Tutti la mascherina. Ma Veneto, io cito Zaia, non il governo. Zaia fa politica, dunque deve addossare la responsabilità a qualcuno. E adesso stanno addossando tutta la responsabilità della gente. No, ragazzi. Siete una vergogna. No. Zaia è uno che ha una responsabilità di governo e va rispettato. Quando Zaia dice la zanzara è una scorreggia sotto le lenzuola. Sai che puzza di merda, ma non puoi non andare a sentirla. La zanzara. Gottardo, il Covid ti inculerà. Scemo. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Gottardo, io spero che Gesù Cristo ti esaudisca in fretta, il prima possibile. Ottimo. Perché ti faccio vedere una forma di Covid di quelle brutte. Poi ce le racconti. È improbabile. Prima di finire in terapia intensiva anni e anni fa, Gottardo era normale o no? No, ero già fuori di testa. Siccome Milione Fede ha preso il Covid, pare, sta bene, sì. Ma è in ospedale a Napoli, nelle vicinanze a di Napoli. Ha 89 anni. Ha 83, se ce la fa lui, anni. E se ce la fa certo, lui, ragazzi, non voglio dire niente. Quindi, se... Briatore, Berlusconi e Fede, che sono comunque con degli acciacchi, Briatore c'è una prostata come un pompello, e non gli fa un cazzo il Covid. Con metà degli anni devo essere terrorizzato da un virus che non stronca nemmeno Emilio Fede. Ancora con le cazzate. Ma io non ho paura di nulla. Sono stato a pranzo fuori anche ieri con tutte le precauzioni, ma ancora non l'hai capito. Non ho paura di niente. Sabato devo venire a Padova COVID. A fare una cosa, quindi mi COVID, muovo vivo. Parenzo, COVID. Ma voi siete due anni. Sabato sei a Padova? Sono a Padova. Sabato. Io sono a Roma sabato. Ecco, pensa che combinazione. Vedi, metti la mascherina e di non infettare mezza Italia. Sono in zona Prati poi, tra l'altro. Comunque voglio dire una cosa. Bene, viva. Adesso metteremo sotto sequestro la zona. devo dire che il quotidiano Libero ancora una volta ha perso un'occasione per stare zitto. Perché? Ha messo in prima pagina una mia foto di oggi da Tagadà, io dico ogni giorno. E hanno scritto, aperte virgolette, sono tutte cazzate, l'ultimo volgare delirio di David Parenzo. Vede la Merkel, si emoziona e perde la testa. Ma cosa dite? Sì, voi che te, tu sbrodoli, quando vedi la Merkel sbrodoli. Visto, quando vedi la Merkel rapi. Quando vedi la Merkel sbrodoli. Sono tutte cazzate. Ho detto questa parola cazzate, cioè, secondo me tu dovessi, televisiva. Se dovessi, se tu potessi scegliere fare una cena con la Merkel o con che cazzo ne so, la Barbuto, andresti con la... Vabbè, forse sì, forse effettivamente questo. Ma tu scusa, che tu cosa sceglieresti, scusa? Ah, a proposito di Barbuto, che poi non sembri la mia una persecuzione. Ho scoperto che c'è un altro Barbuto che scrive su Libero. Sì, chi pare è? Sia il fratello. Sì. Come fratello? Il fratello. Cioè, i fratelli scrivono su Libero? Sì, pare di sì. Non è pare vero? Sì. Allora, mio fratello Beniamino... I fratelli baresi? Faccio assumere Beniamino Parenzo da Radio 24. Alla Zanzara. Ma non ho capito. Ma che ma veramente i fratelli Barbuto scrivono su Libero? Pare di sì. Non è vero, dai. Dai, non dire sempre balle. I fratelli Barbuto scrivono su... Chiama Felti, voglio avere contezza di quel. Chiama Felti. Io non vado via da qua fino a quando non chiami Libero. Io voglio verificare questa cosa. I due Barbuto che scrivono su Libero. Dai, pare di ragazzi. Sì. Pare ma di come sì. Pare? Intanto, verifichiamolo ragazzi, subito. Direttamente dalla puntata di venerdì, il signor Librandi. Signor Librandi ha fatto un certo scalpore. La dichiarazione. Ma hanno fatto scalpore diverse dichiarazioni. Ma perché le dichiarazioni in onda? Dico io, Librandi. Librandi, gli immigrati sono più forti di noi, questione di genetica. Ascolta, fammi vedere un immigrato che è in ospedale col Covid. Ma certo, sono tutti ragazzi che arrivano qua. È la dimostrazione che arrivano tutti quanti in piene forze. Tu se le spari così, andiamo in ospedale. Andiamo a Varese, Saronno. Ma è la dimostrazione di quello che si dice, che arrivano qua solamente giovanotti in piene in solo. Ma scusami, ma non c'entra niente, non hanno neanche contagi. Perché? Spiegami, perché? Spiegami. Perché? Secondo la tua grande teoria, perché? È una questione di genetica. Senti, i calabresi del sud sono i più forti, siamo africani bianchi. Ma è incredibile. Genetica. Esempio, io che sono un calabrese, sono più forte, io l'ho fatto il Covid. Un giorno. Sei più forte di chi? Sei più forte di chi da calabrese, non ho capito. Sì, i calabresi sono più forti perché cioè, sono geneticamente. Cioè, stai di dicendo più. Che al sud chi ha il DNA del sud o dell'Africa resiste di più. Abbiamo l'infettivologo Librandi. Senti una cosa, noi siamo africani bianchi. Mamma mia. Gli africani bianchi di Librandi che resistono di più al virus. Poi dice che tra i rom ci sono dei premi Nobel e non ci sono sfigati come i fratelli d'Italia. Beh, un po' duro, diciamo, nel suo giudizio, forse un po' tranchant. L'altra cazzata che hai detto, bravissimo, sono i rom che hanno un quoziente di intelligenza alcuni più alto rispetto ai fratelli d'Italia. Certo, perché tu devi sapere che entro nei rom ci sono delle persone di altissimo livello. C'è stato un nei campi rom, guarda, è pieno. Posso dirti che nei campi rom è pieno di gente di altissimo livello. Guarda, li vanno a cercare dei centri. Ma che c'entra Banderas? Come? Non farmi dire come. Come chi? Come la Meloni, dici? Come la Meloni. Intanto il tuo amico come si chiama? Menagram Galli ha detto che arriverà un'altra grande epidemia causata dai germi multiresistenti. Era quello che non doveva mai più andare in televisione. Sarà una delle principali minacce di questo decennio. Dopo il Covid arriverà un'altra grave epidemia. Parezzo, ma ti pare normale uno che parla così ogni giorno? Un'altra grave epidemia dopo il Covid. Questa roba è incredibile. Dai, su, Francesco, attimo, provincia di Cuneo. Aspettare un attimo per capire. Francesco, provincia pronto? Di Cuneo. Dimmi. Pronto. Dimmi. Volevo dire al signor Parenzo. Buonasera, grazie. Con molta educazione. Che tutte le volte puntualizza sulle persone che magari non hanno avuto la sua fortuna di studiare e laurearsi a livello economico. Esatto, sì, bravo. Sì. Non sì, si è laureato. Abbiamo non avuto dei gran boccognani di merda che hanno fatto dare il culo all'Italia, dei boccognani che hanno governato aziende. Hanno fatto dare il culo all'azienda. Grazie per questa espressione che lei ha usato. Ha ragione. E gente con la terza elementare ha costruito molto di più. quindi non ti permettono adesso di prendere per il culo paragone... da gente che non ha avuto la possibilità di studiare. Non c'è un paragone su questo, su questo tema. Per favore fallo star zitto, perché veramente signor Francesco, tanto grazie per aver chiamato. Ora, ma quello non c'entra niente, Francesco, no, ma non me ne frega niente a me che sei tanto grazie Francesco. A me non me ne frega niente, ha ragione Francesco, ha ragione Francesco. Non rompere i coglioni con questa cosa, hai studiato un cazzo. Grazie Francesco, grazie per la sua critica costruttiva Francesco, grazie per aver telefonato. Grazie molto Francesco, grazie Francesco per il suo contributo. Fermi tutti, grazie molto e vado a fare il culo, grazie per aver chiamato. La Zanzara. Fai tu, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024, oppure se volete mandare un sfaccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Ragazzi, sono combattutissimo, ma settimana scorsa chi è che ha detto la puttanata più grossa? Li Brandi o il Giovanardi da Padova, il nipote dell'ex sindaco democristiano? San Pietro era un rom? O voglio prendere il Covid per raccontarlo alla radio? Mamma mia! Vabbè, ma ragazzi, ma Li Brandi è come Pappalardo, cioè allo stesso livello, ha detto delle cose allucinanti, i negri superiori, i rom più intelligenti, i calabresi che non si prendono il Covid. Ragazzi, questo è come Pappalardo, dai, che differenza c'è? Ora periodo di fix, uno non esce, fa nascere i picceriti, fa passare e si deve sentire in colpa per chi pota le giornale, lo signor Boccio, signor Speranza e tutti questi quattro coinute magnacci che non hanno travagliato mai e pigliano picciola a sbafo i nostri soldi, perché lo stipendio glielo paghiamo noi italiani. Devono rompere il cazzo e si sentono di dirigere il popolo, vogliono fare i dittatoricchi. Dovete morire, i dittatoricchi andate a fare in Cina, qua in Italia dittatura non ce n'è, non andate a rompere un cazzo, andate in scema e facciamo chi tu che vogliamo. Avete le precauzioni, ne imponiste voi questa minchia di maschera e ancora continuate a rompere un cazzo. State tirando troppo la corda, dovete andare a casa. Renzi, quando dici tu e ti suo minchia governo in terra, Renzi, che mi cagai sto cazzo pure tu. Ed ecco Gabriele dalla provincia di Roma, avanti. Comunque, tutta è una avanti trasmissione tutta. Irriformabile adesso. Shalom David, dimmi, è una trasmissione dimmi. Non più gestibile, ormai fuori controllo ogni ti ha detto cosa. Shalom, allora, ti ha detto shalom. Ma culo, ma avete stufato tutti quanti, sento degli ma audio no, di, non ma è così, non è così. Diamo la così, a così. No, ma ripensando, scusa, poi io sto zitto, ripensando effettivamente tra Li Brandi che dice la roba dei Roma, anche lì esagera, come si fa? Tra Li Brandi e Gottardo, ma davvero ragazzi, ma di che stiamo parlando? È irriformabile questa trasmissione. Ma che c'entra Li Brandi con Gottardo adesso? Ma no, ma ha ragione quell'ascoltatore prima che diceva, ha detto la strozzata più grande, Li Brandi o Gottardo? Ma io dico tutte e due, cioè, ormai ti, sento un po ti sento un po' geloso, sai, Parenzo, di solito le dicevi tu le stronzate più grosse e ti sento quasi dispiaciuto da questa cosa. Sì, però insomma, sì, se analizziamo, sì. Appunto, vedi. Allora, ragazzi, posso farvi presente una cosa? Il ministro degli affari regionali, il signor Boccia, ha detto le foto degli assembramenti mostrano scene ingiustificate, irrazionali, irresponsabili. Sì. Comprendo la voglia delle persone di uscire, ma dovremmo sentire ogni giorno dentro di noi il lutto nazionale. Ma che roba è? Ma chi l'ha deciso di uscire? Il lutto nazionale. Ma che roba è? Mi sembra evidente che ci siamo già dimenticati quello che è avvenuto in questo paese. Io non dico altro. Ma non rompere i coglioni. No, Gabriele, davvero. Dimmi, che volevi mi siete dire? Dimenticati? Dire? Cioè, in pochissime parole, io non credo che esista programma radiofonico di un'omologa Confindustria in Germania, no, Francia, infatti, Stati bravo. Uniti, Giappone, Canada, che vada ad importunare le donne di 70 anni dicendo loro che scorreggiano dalla vagina. Sì, ma quella e tu Davide non stai facendo nulla per poter dire questo. Ha chiamato lei, la signora Esther, se ti riferisci a quella roba lì, ha chiamato lei, non è che siamo andati noi a chiamare, quella potrebbe essere anche un'idea, di andare a chiamare le vecchie in tutta Italia dicendo scusi, a lei scorreggia la vagina, quello potrebbe anche essere un grande format, no? C'è la scorreggia della vagina, live, no, chiamandole. le persone. Noi ci spieghiamo che questo declino del paese, che poi abbiamo Di Maio come ministro per gli affari esteri, non lo vediamo in altre potenze, tutto qua. Sì, no, ma io dico semplicemente questa cosa qua, quando David ci fa la cortesia di essere un po' più attento, cioè che chiamare le donne, caro David, chiamare le donne anziane per telefono e dire a queste donne anziane se hanno mai sentito scorreggiare la loro vagina, potrebbe essere un grande format, la realtà, l'Italia, no? L'Italia, l'Italia raccontata, naturalmente, dai! L'Italia racconta, naturalmente. Sì, l'Italia racconta una grande trasmissione che entra naturalmente nelle viscere, non soltanto del paese. Naturalmente. Bisogna un attimo pensare a una conduzione adatta, visto che si parla di persone anziane, probabilmente il professor Savona. Ma che c'entra il professor Savona con le scorreggie vaginali? Beh, naturalmente, è stato la presidente della Consob, dai, l'autorità di controllo. L'autorità. E allora si controlla naturalmente la borsa, naturalmente, perché non poter controllare anche i movimenti vaginali, naturalmente. Questa è una grande idea. Questo sì, il controllo della borsa si va un po' più, diciamo, di lato. E perché non proporre, ad esempio, anche il controllo degli, naturalmente, ritornare al cosiddetto sovranismo e quindi proporre un conduttore che sia in linea con questa idea del controllo, naturalmente, dei confini. Giusto, e delle giusto, vagine, giusto. Riccardo da Livorno, vai, Riccardo da Livorno. Sì, buonasera. Niente, volevo dire a proposito di questo nuovo lockdown, no? Secondo me Riccardo da Livorno è un cretino, secondo me. Perché è un cretino? No, no, sei un cretino, Parenzo, che difendi sempre il culo a gli altri e parli sempre contro i cittadini, no? Giusto. Contro i disgraziati, i ristoratori che hanno comprato la roba e ora devono stare chiusi. Ha ragione Riccardo. 10 giorni prima gliel'hanno detto. Io fui rappresentante di vino, invece di dirmi cretino che ti prenderò al Vinitaly per un orecchio quando ti vedo, no? Quando ci sarà c'è questa a Buglioni che non mi fare da una puntura. Cosa? A Galli che ha detto non ci sarebbe stata la seconda ottata ondata agosto-settembre. E ora parla della terza e della quarta. Questi coglioni di burocrati che vanno in televisione. Guarda, forse, Conte. Ma forse, cosa cazzo dici? Forse, io, caro, sono un cretino e te forse lo hai bevuto un po' troppo quel vino. Forse hai bevuto un po' troppo quel vino che dici di rappresentare. No, non ho bevuto il vino. Io ti dico, vengo allo stand di Radio 24 a Vinitaly. Ma non ci sarà Vinitaly. Quando ci vado tutti l'anni. Sì, ho capito, però amico mio, adesso siamo calmi. Parenzo ti ha dato dell'idiota, mi sembra di capire, Davide, gli hai dato dell'idiota a questo qua, totale, no? Giusto? Assoluto, totale o assoluto, insomma sì. Ma perché gli hai dato dell'idiota? Perché uno che chiama e dice che non si farebbe fare una puntura da Galli e Burioni, che sono tra le persone, assieme a Crisanti, tra i più affidabili, quelli che hanno azzeccato tutte le previsioni, dici? Diciamo, ma in cazzo, ma tu sei pazzo. Ma cosa ragioni? Sì. Fatela da te la puntura. Io voglio fatela dire, da te. Io voglio dire una cosa. Batti il marciapiede, che non batti il marciapiede. Via. Batti il marciapiede con Riccardo, che non gli hanno dato un euro. Non gli hanno dato un euro a Riccardo. E capito? Continua a scrivere. Non manco ti sta ascoltando, se ne sta sbattendo. Sì, me ne sto sbattendo. Dall'alto delle me ne sbatto. Posso dirti? Posso dirti quello? Io me ne sbatto di Riccardo da Livorno, di Roberto da Torino, di Leonardo da Livorno, di Sandro da Firenze, di Fracazzo da Belletti. Odio tutto di questa trasmissione, tutto, adoro solo il venerdì alle 20:50 quando si abbassa la testa su una trasmissione tragica, disastrosa, drammatica per il paese. Dai, vallo a prendere, Riccardo, vallo a prendere. Ti basta così o no? Quando ci sarà la possibilità di fare un'altra esterna, vallo a prendere. No, ma dillo, Riccardo Vinitaly, lo pillo per un orecchio, ma Vinitaly non ci viene, David, dal Vinitaly. No, e allora lo prendono da qualche altra parte, tanto il mondo è piccolo. Il mondo è piccolo, David, il mondo è piccolo. L'avvertenza di Riccardo, in cui si minacciano le persone. Ciao Riccardo. Riccardo, David, sabato è a Padova. No, sabato lo trova a Padova. Perché devi dare il formato? Sabato pomeriggio. Sabato pomeriggio. Sandro da Firenze, avanti tutto. Comunque è incredibile, ragazzi, questi qua fanno il cashback di Natale. Ha ragione Gottardo su questo. E poi si incazzano, certo, se la gente va a fare acquisti, cioè, mandarsela a fare il culo. Chiudono i centri commerciali, dicono, chiudono i centri commerciali nel weekend e si stupiscono se la gente affolla le strade della città, certo. Ma è normale, strano, dove cazzo vanno? I centri commerciali sono chiusi, dovrebbero essere aperti 24 ore su 24. Non chiusi il sabato e la domenica i centri commerciali, aperti 24 ore su 24 ma con il 10% di sconto, perché te lo danno indietro col cashback. È logico che la gente vai si scatena. Dai, ma non vuol dire, ma cosa vuol dire? Ma scusa, se uno, Sandro, vede che c'è un gran casino, non va a fare quella roba lì. Dimmi, Sandro. Ma c'è già, quando lo vede, c'è già in mezzo. Dimmi. No, io dicevo una cosa. e sono in contrasto con il mio corregionale di Livorno. Perché voglio dire, io ho già spiegato una volta anche al signor Gottardo che ho perso un amico di 63 anni della mia età, che come unica cosa che aveva era sovrappeso, cioè quello come sono io e come Gottardo. Adesso voi dovete fare la finita, perché prende una linea e si difende, non dovete cambiare, non dovete cambia? Perché dite si apre tutto e ora dice ora dice bisogna chiudere tutto, ma quello è il governo veramente, quello è il governo. Io ho detto Sandro, chiedete scusa. Ma su che cosa dobbiamo chiedere scusa? Ma chi? Di quello avete detto te, Gottardo, di questa influenza che non c'è da preoccuparsi. Io alla mia età non mi sono mai preoccupato. Irresponsabile, prendi il Veneto, no? Sai il Veneto quanto è la percentuale tra decessi e contagiati? Ma perché prendi? Sai quanto è in Campania? In Campania è l'1,3. Ma cosa c'entra, quindi, Sandro? Cosa c'entra? Ma vuoi guardare la media? L'età media delle persone morte è 80 anni. Non vuol dire nulla. Ma come non vuol dire? Ma cosa vuol dire? Siccome sono vecchi devono morire, ma che dite ancora questa storia? Sono mesi e sottovalutate. Ma che sottovalutate? Mesi. E ora dite hanno fatto poco. Ma fino ad ora avete detto poco. Non hai capito bene. Non hai capito bene qual è l'argomento. L'argomento è un altro, caro Sandro. Allora, se prima hanno deciso una linea e poi si spaventano perché vedono la gente per strada, questo lo troviamo ridicolo. Poi per me possono prendere tutte le linee del mondo, anche il lockdown totale, però devono dare i soldi. Quello che c'entra. Governano con i sondaggi. Cioè, vedono. Ma se impara a leggere le curve, cazzo, non guardi nemmeno le cose. Non ti capisci niente. Il fenomeno di Livorno capisce tutto. Ricordati questo, siccome io ho un cognato e una cognata in ospedale, te lo dico io, vai a sentire quello che sono tirato a dire. Io mi voglio ammalare, lo voglio portare in radio, sono in pericolo di vita. Sandro, sì, ci sono, sono al telefono, sono al telefono. C'hai l'auricolare o via voce? No, sono al telefono, che è molto purtroppo fa basso, ma sono al telefono. Ma c'ha ragione Sandro, ma è uno scandalo dire questa cosa con la gente che ha i parenti all'ospedale per questo virus. Sandro ha due parenti in ospedale. Andrea da Pesaro. Niente, io volevo salutarvi e dirvi che veramente non vi capisco perché dobbiate dare voce a quel demente provocatore di Librandi. Sì. Non andremo mai a pulire i cessi degli africani per un semplice motivo. Sì. Avete visto la foto che vi ho girato? No. Ne vediamo tre. Non si va a pulire i cessi degli africani perché gli africani non hanno i cessi. Loro cagano la savana, cagano sulla spiaggia della capitale del Ghana. Mangiano le banane anche, sa? Si arrampicano sugli alberi e mangiano le banane anche, già che ci siamo. Ma fa poco lo spiritoso, che non si tratta di essere razzisti. Siccome qualcuno provoca. Pazzesco. Siccome qualcuno provoca, io vi ho girato una foto che non c'ha bisogno neanche di commenti. Non ci sono i bagni in Africa. La capitale del Ghana non hanno i cessi, vanno a cagare sulla spiaggia. A casa tua, anche gli devono cagare sotto casa tua, quelli devono farlo, bisogna dare l'indirizzo e mandarli tutti sotto casa tua al civico 44, non so cosa. Con che spari? Scusa Andrea, spiegami con che spari? Con la balestra, sei fascino rosso e ti hanno tolto le armi, non ho capito. No, io sono considerato un faccino rosso alle forze dell'ordine, quindi mi hanno tolto le armi, no? Io non scusi, però siccome le balestre, sono di libera vendita, viviamo in un paese in cui chiama un signore in una radio nazionale e dice che in Africa non ci sono i cessi, che cagano per strada, salta fuori che il suddetto signore che ha fatto questa analisi geopolitica è un faccino rosso con cresciuto alle forze dell'ordine e lo dice senza vergogna, cioè a questo è il livello. Ma facinoroso in che senso, Andrea? Scusa, spiega. Ma perché mi devo vergognare? Ma facinoroso in che senso? Sei noto alle forze dell'ordine in quanto facinoroso, evidentemente ci sarà qualche. Certo, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Ha a che fare con i cinghiali, ma quella è un'altra storia. Come questo? Che ad Accra, che è la capitale del Ghana. Ma questo lo sappiamo, vabbè, l'hai già detto. Ma tu sei facinoroso? In che senso sei facinoroso? Non ho capito. No, io ho 20 anni fa, c'avevo un cinghiale che non ha aggredito mia moglie incinta, gli ho portato un cinghiale vivo in provincia, a Pesaro, e da quella volta là è diventato l'inferno, ma insomma. Fermi lì. La Zanzara. Sono pieno di dolori, pieno di problemi, ho problemi in tutto il corpo, compresi anche, vabbè, non diciamo cosa, capito? Ho problemi in tutto il corpo e questo stato di merda non mi dà neanche la cannabis terapeutica, che potrebbe un minimo alleviare i miei dolori, i miei problemi, perché non sono così grave. E allora l'unica soluzione è legalizzare, merde! Bicchieri, le pastiglie e tutto quello che prendevo non creano dipendenza come l'eroina e la cocaina. Quindi non sono paragonabili a quello che alla droga che sto prendendo ora. Anche se prima era più sconcia la cosa perché bevevo nei bicchieri degli altri, ma comunque sempre controllato, capito? E comunque il vero problema mio sono stati i veleni che mi hanno dato, che mi hanno distrutto la mente, il fisico, il corpo e tutto quanto. Allora ragazzi, fa molto discutere, per usare un'espressione abusata e anche un po' ridicola, fa molto discutere, cosa? Perché uno deve dire fa molto discutere, una cazzata pazzesca, non si dice fa molto discutere, è una frase ridicola, ma è una frase ridicola che non vuol dire un cazzo. Vabbè, ci sono delle immagini su web di Fedez che distribuisce 5.000 euro in contanti a 5 categorie di persone, cioè a 5 persone. Distribuire i tuoi soldi a qualcuno? Ma non ci penso nemmeno, non sono soldi suoi, attenzione, non sono soldi suoi. Tu lo faresti sono mai? Sono soldi che lui ha preso dai suoi fan su Twitch, sul canale Twitch. Beh, li ha guadagnati in fondo. No, non li ha guadagnati. I suoi fan gli hanno dato dei soldi che lui adesso ha distribuito a delle persone. Beh, una bella cosa però. Ma non lo so, una bella cosa. Alcuni dicono no, non sono soldi suoi, girava il Lamborghini per le strade di Milano, ha dato questi soldi a una cassiera di un McDrive, a un senza tetto. Per lei le cambia. Una soccorritrice, a un artista di strada e a un fattorino, cioè un rider, ai tuoi amati rider. Cambia la vita, fra qualche giorno ti scateno il rider. No, ma i rider non sono tutti così, per la verità. Se fosse tutti quel coglione di Bologna, mentecatto, razzista. Ma che c'entra razzista? Perché ha fatto l'altarino con la tua foto? Perché fa le maledizioni con l'altarino. Ma la cosa dell'altarino me ne frega. Sentiamo Fedez. Senti, 1.000 euro a McDonald's, clochard, 1.000 euro. Ma mi sembra un'operazione comunque molto commerciale e autopromozionale. Non lo so, ma ha raccolto i soldi e dai però soldi, dico, tipo per quelle persone, Lauro, quelle persone Lauro, che le hanno ecco. ricevuti, per loro il Natale sì, un po' gli sì, cambia. Sì, per carità, va benissimo. Cioè, ma tu ne guadagni 30.000 al mese, a te che ti cambia? Ma vai a fare niente, il culo, ma non dire cazzate, ma che stronzate, dai su, dai. Senti Peter, Ti devo dare questo che è un regalo da parte della mia chat di Twitch. Grazie. Prego, vuoi aprirlo? McDonald's. Sono 1.000 euro in contanti che ti ha regalato la mia chat di Twitch. Giuro. 1.000 euro in contanti. Come? Cosa elegante. Sì, è una cosa elegante dare 1.000 euro. Sì, questa ha ragione, sì. Tu perché non lo fai tu, Parenzo? Non lo credo. Perché non vai in giro? Non vai in giro per Roma, tiri fuori 5.000 euro. Perché 5.000 euro non ce n'è da dare ai poveri? Vicino alla stazione Termini dove ci sono i clochard. Fuori, fai questa sceneggiata. Fai Fedez in minore. No, magari posso aver fatto delle donazioni alla comunità di Sant'Egidio, ma non è che te lo dico alla radio. No, devi andare fuori e fare questa cosa qua. Impacchettare i quattrini. Ma per carità di Dio, se Fedez da 5.000 tu ne puoi dare 5.000. 500, diciamo, una specie di Fedez appunto, in miniatura. Ma va benissimo, esatto, dai 500 bravo, euro, 500 però fallo, 100 euro, sì, euro tu a termine, 100, io non do un cazzo, niente, chiaro, perché? Niente, nulla, perché non mi va di dare un cazzo. Niente. Tu che fai tanto sempre il buonista, ce la vai a dare a un immigrato, io ho quattro figli, a un rom, ragazzi, da mantenere. Va bene, quattro figli, sempre frocio con culo degli altri. Ma poi, in Italia non c'era il limite del prelievo del contante, tra le altre cose. No, adesso questa ragazza, francamente, con la stronzata del lunedì, la prima stronzata del lunedì, adesso vuole accusare di riciclaggio Fedez. Avete sentito la stronzata del lunedì? Questa non è la banca, 5.000 euro in contanti, sono questi qua, no, questi sono i suoi fan di Twitch, non lo so, sì, sono in contanti, perché non so se sono arrivati in contanti o no, credo di sì, adesso non lo so, cioè avranno fatto un bonifico e lui li ha prelevati in contanti, ma c'è una giustificazione evidente, no? Ci sono i filmati, giustificazione. Ma certo, uno può regalare 1.000 euro per strada a uno, non è che ci vuole la donazione e le carte bollate per regalare 1.000 euro a uno per strada, insomma, dai, 5.000 euro in contanti. Vuoi che te lo apro io? Fa freddo qua fuori, questo è Federico che ha fatto il pacchetto male. 1.000 euro contanti. C'era pure l'assistente. Sei c'è? Contenta? Questo è il tuo regalo di Natale da parte dei miei amici. Sono 1.000 euro. 1.000 euro? Sono 1.000 euro. Grazie, auguri, buon Natale. Buon Natale a te. Magari c'era un delinquente. Filippo Vicenza, dai. Ciao, io volevo parlare con Gottardo. È qua, eccolo. Dimmi. Vai. Eccoci qua. Sì, allora, Alberto, io trovo profondamente sbagliato il tuo ragionamento che fai sul coronavirus. Certo, cioè, ragionamento. Allora, dai, forza, dai. Dimmi, ragionamento. Cioè, per quanto tu, statisticamente, per la tua età, sia praticamente impossibile che possa morire, rientri in una categoria che potrebbe necessitare di ospedalizzazione e di terapia intensiva. Questo perché, non scusa, muori. Perché è grave, perché è leggermente sovrappeso, cosa che non lo è più in realtà. Perché? Sono 98 kg adesso. Perché comunque ci sono persone che anche essendo considerate sane possono finire in terapia intensiva. Vabbè, allora dunque? Certo. Il sistema in questo momento è al collasso. E allora non devo fumare, okay. Per lo stesso motivo. Quindi se tutti facessero come fa Gottardo, già il sistema sanitario è al collasso. Ma cosa sai che faccio io? Ma tu cosa sai che faccio io? Io vado in giro con la mascherina, frequento pochissime persone. Vabbè, perché forse non ti vuole frequentare nessuno. No, perché la gente è imbarazzata a frequentarti. Guarda, ricordati che sei stato prendere. Ma se dici che vuoi prendertelo. Sì, vorrei prendermelo. Guarda, in queste, in queste due settimane che sono giù dalla radio, vorrei prendermi il Covid, mi tolgo dei coglioni anche questo rischio. Ma ok? Pazzo. E poi racconto in radio, ecco, dando un messaggio positivo che non mi è successo in radio. Un cazzo. Ma come fai a sapere che non avrai nulla? Ma non puoi saperlo che non ti succede nulla. Ah, molto probabilmente non avrò nulla. Dai. Ma siccome io non te lo auguro, rispetto a molti che ti augurano di prenderti un Covid. Esatto. Sì, io moltissimi, non te lo auguro, moltissimi. Mi auguro la morte tutti i giorni. Io non te lo auguro, però se dovesse succedere, siamo in un paese che per fortuna ti darebbe un'assistenza sanitaria. In questo momento grazie al cazzo. A fine mese ho pagato 8.000 euro di F24, vorrei anche vedere. Io ho 28 anni e non vado in giro senza mascherina, come non fai tu, ma non ma vado in giro io. A rischiare ma di prendermelo. Io vado in giro senza mascherina. Beh, però scusami, se te lo vuoi prendere, vai in giro senza mascherina. Allora, tanto voglio dire, no, allora, cioè, Gottardo, se te lo vuoi prendere, oppure no, vai da Fede che se l'è preso, vai in ospedale da Fede, vai a trovare a casa, fatti alitare in faccia. Fatti alitare in faccia la Fede, che ti posso dire? Andrei domani mattina, vado in giro con la mascherina perché non voglio infettare gli altri. Ma che c'entra? Se non c'è, ma che sei pazzo? Ma se non ce l'hai ancora, come fai? È impazzito. La mascherina serve per evitare che io sputi addosso. Sono gli altri, ma, cose che magari sì, vabbè, questo certo. Ma tu vai, prendilo. Ma tu dici io anche che vorrei prenderlo. Ancora questa stronzata. Irrispettosa per chi è morto. Irrispettosa per chi sta male anche in queste ore. Non puoi sapere se non avrai bisogno di una terapia intensiva o di una ospedalizzazione. Vabbè, Filippo, abbiamo già detto. Ciao. Per qualsiasi cosa, dai. Provincia provincia di Imperia, avanti tutta, Gianni. Lockdown dimmi. Di 5 settimane per l'Olanda intanto. Dimmi, dimmi, dimmi, senti come goda, senti come goda la parola lockdown. New York chiusura la parola, totale. La parola lockdown, Olanda, vieni no, quasi, vieni ti do quasi. Dei dati, ti do dei dati. Ma New cosa York c'entra? Chiusura mi devi totale. Vedere che tipo lockdown di lockdown 5 è. 5 settimane in Olanda, ma lockdown a Londra, chiusi bar e pub. Fermo, Vittorio Feltri con noi, buonasera, buonasera, buonasera direttore. Buonasera a tutti voi. Come andiamo? Ci voleva una voce ragionevole in questa trasmissione. Un trionfo assoluto. Un trionfo totale. Senti, io non ho capito perché, a parte che il signor Parenzo ti deve fare qualche domanda sì, no, sulla signora Barbuto. Questo. No, ma che scrivono i fratelli Barbuto sul giornale? Ce ne bastava una di Barbuto, anche l'altro, anche il fratello. Non ho capito niente. No, no dice, come dice sul tuo giornale. Dice, io non lo sapevo. Dice mi risulta Parenzo. Che scrivano i fratelli Barbuto. Io dico ne bastava una di Barbuto, sai, la signora sai Barbuto. Sai che tra Parenzo e la signora Barbuto c'è un contenzioso in atto. Che contenzioso. Un contenzioso in atto perché lui l'accusa delle peggiori nefandezze di avere detto che una madre è responsabile di avere portato un bambino su un barcone. Sai queste cose un po' alla Parenzo, diciamo, Vittorio, no? Mamma. Ma cioè non capisco che cosa ne frega a Parenzo, esatto, se esatto. I due fratelli Barbuto si esatto, esatto. Non ne bastava uno, dico, un Barbuto, non bastava un Barbuto, addirittura sì, due nei presi. Te ne frega. Ma esatto. Mi sembra assurdo che scrive che vieni a criticare perché esatto. Ma scusa, ma ti sembra normale? Sarebbe come se a Radio 24 lavorasse i fratelli Parenzo. Ma no, che ce ne frega non capisco noi. Che cazzo vuol dire. Ma che roba è? Adesso vieni, effettivamente Parenzo se ne basta uno. Esatto. Però se fossero anche due, uno stronzo più due fanno due stronzi. No, che fanno lo stesso si potrebbe dire, ma non lo dico, dei fratelli Barbuto. Lo ma stesso che te ne frega a te. Comunque, se ti sembra normale. Se ti sembra normale avere i fratelli Barbuto entrambi, scusa, che scrivono sul giornale. Se non mi sembrasse normale, non li farei scrivere. Esatto, che scrivono esatto. Di gatti per giunta. Una scrive di gatti anche. A proposito, caro direttore, ma è vero che c'è? Io non lo sapevo che tu hai conosciuto un gatto che c'ha i baffetti e dunque è stato chiamato Hitler. Sì, un bellissimo gatto sì. Bianco con dei baffetti neri. Sì. È stato chiamato Hitler perché i baffetti in quella maniera lì. Sì, ricordano. Che proprio, pessimo gusto. Ma questo gatto, cioè, per questo te non gatto c'è come reagiva quando vedeva Parenzo in televisione? Come reagiva il gatto Hitler? Non lo so, non è suo, credo. Guarda, io devo dire che il gatto Hitler è totalmente indifferente a Parenzo, come lo sono. Ah, ok, perfetto. Però scusami direttore, no, questo gatto Hitler, qualcuno ha detto che non è cattivo gusto dare il nome Hitler, no, Hitler di pessimo gusto. A un gatto, pessimo però gusto. Questi sono no, i soliti coglioni che rompono le balle su qualsiasi cosa, no? Cioè Hitler è un nome, no. Sì, certo che è un nome, ma è una porcheria, però che vuol dire? Ricordo. No, ma come adesso, perché io mi ricordo che una volta quelli delle Iene mi vennero a intervistare sì. E mi chiesero di Hitler, io sì. Dissi scherzando evidentemente. Beh, chiaramente. Se è vero ma giusto. Sì. Sì, sì, sì. Mamma sì, mia, è uscito un casino. Ti credo. Ti cioè, credo. Come se fossero stati tutti dei Parenzo, no? Che hanno per te. Queste manie di giudicare, di fare, no, di giudicare, no, cioè, è normale chiamare un gatto, cioè, un gatto diciamo che il mondo è pieno di pirla, per cui va benissimo. No, però voglio dire, secondo te chiamare un gatto Hitler è assolutamente normale. Per esempio, secondo me ci sono un sacco di gatti che si chiamano Mussolini e noi non lo sappiamo. Di padroni di gatti che vengono chiamati Mussolini o Benito. Cioè, sì, pieno. Vabbè, ma a me cioè, chi se ne frega, a me non me ne importa niente. Sì, ma se infatti un gatto si chiama Hitler o si chiama Stalin. Un topo lo devi chiamare Hitler. Un topo no, di fogna. Io amo anche i topi. Appunto. Lui ama tutti gatti. Gli animali quasi sì. Indistinti. C'è un animale che non sopporti? No, nessuno. Sì, cioè degli animali umani, sì. Tipo Parenzo, tanto per capire. Sì, ecco, sì. Questi non li sopporto molto volentieri. Quella... Però li tollero, dai. Adesso. Sì, sì, sì. Tant'è che sono qui anche stasera sì, a parlare sì. Con lui, anche se la cosa è un po' di pugnante. Come va il lavoro indefesso al giornale? Come va al giornale il lavoro indefesso nel trovare notizie? Come va lì al giornale? Ma lì? Dai ragazzi, dai. Scusami, Vittorio. Ma che te frega, come va il come giornale? Va lì? Il lavoro su cosa aprite domani? Su quale crimine di immigrati aprite domani? Ma che su quale... di immigrati? Ma che cazzo te ne frega, figlone? Ma che te frega? Qual è il titolo? Scusami, i cazzi tuoi. Scusami, tu sai cosa sono i cazzi tuoi? Scusami. mio, stai tranquillo. Altri titoli, quali sono? Scusa, Vittorio, Vittorio, siccome si parla molto, si parla molto di shopping, no? Cioè di tutto questo casino, eccetera. Tu immagino che non sei mai andato in vita tua a fare shopping, credo, mai. Credo. Mai, no, no, come mai? No, no, no, mai. Ma, figurati, no, non ho bisogno di niente, io non mi compro niente, specialmente in vicinanza delle feste. Come non compri niente? Ma farà un regalo ai nipoti, scusa, ai nipotini? Ma me ne guardo bene di fare regali ai nipoti. Come? I miei nipoti non sono degli imbecilli come te, ma caro. Ma capito, ma tutti fanno i regali ai nipoti. Niente. Ma come regalo? Niente. Ma che modo di fare è? Ma un regalino, un pensiero d'amore. Tu sei talmente pirla che non hai neanche ma nipoti. Chiedo, ma scusami, ma ti sembra normale che un nonno non faccia un regalo? Ma quello di una persona soldi, a cui vuoi bene in tasca un regalo. 100 euro, arrivederci, grazie. Ma, che, no? Ma è diseducativo regalare i soldi ai bambini? Dai, ma non credo proprio. Modo. Ma quei bambini poi si comprano il cazzo che vogliono, no? È normalissimo, dai, su. Ma è assolutamente non ha mai normale. Fatto un regalo. Senti, però io mi è venuta una grande idea, Vittorio. Tu dovresti farti, siccome sei un grande fan dei vaccini, in generale della chimica, in generale delle. Tu dovresti farti un video, siccome ti vaccinerai e forse per la tua età addirittura potresti essere uno dei primi a vaccinarti, potresti anche guarda, essere. Io sono già d'accordo con il professor Galli, sì? Che non appena arriva la possibilità di fare il vaccino, io andrò con lui, lo faremo insieme e poi faremo, diciamo così, un po' di pubblicità per incentivare il mondo. Vedi, c'è grande accordo tra Galli e Feltri. Sì, dopo attenzione, aver scritto fermi. Una serie di minchiate contro le chiusure, ma meno male, per fortuna, evviva. Ma che c'entrano le chiusure con... Hanno criticato, il suo giornale ha criticato quest'estate le misure del governo per chiudere, per stare sotto controllo. Adesso, per fortuna, vedo che ha cambiato opinione e mi fa molto piacere. Ma che c'entrano le chiusure? Che succede? Cosa c'entra il vaccino con le chiusure? Ma come io, cosa insomma, c'entra? Ma sei fuori completamente. Ma come cosa c'entra? Ma sai bene, ma hai bisogno di cure. Guarda che io ti raccomando anche a Galli, se hai bisogno. Ma cosa? Ma scusami, cioè, scusa. No, però qui abbiamo una notizia, però fermi tutti. Abbiamo, al di là della questione di Libero, eccetera, abbiamo una notizia, cioè Feltri e il professor Galli faranno insieme praticamente un video, perché Galli ha già annunciato che si vuole, cioè faranno insieme, si vaccineranno in diretta, diciamo così, cioè faranno un vaccino un video per mentre si vaccinano. Questo mi pare ottimo, sì, per incentivare, per reclamizzare l'uso del virus che del vaccino che è uguale, sì. che può diciamo sconfiggere la malattia. Per cui tu... io faccio volentieri, io mi presto volontario, sì. E Galli mi ha detto che anche lui si presta volontario, lo faremo insieme. Ma che cosa c'è di strano? No, ma nulla. Mi sembra importante, ti stai inoculando un vaccino fatto da due turchi, questo me ne frega dei questo turchi. Lo devi sapere, dagli immigrati, due immigrati hanno fatto il vaccino, questo ma no, invece sì. Ma che c'entra? Come no? Il vaccino è stato fatto da due immigrati turchi, da due immigrati, ricordatelo quando te lo inoculano. Cosa sono i turchi? No, sono andati negli Stati Uniti. Ebreo, sei anche razzista. Non sono razzista, niente, ancora questa storia. Esatto. Ma sei tu che non sopporti gli immigrati. Sono uguali, esatto. Sei tu che non sopporti gli immigrati. C'è un deputato di Italia Viva che si chiama Librandi, il quale ha detto che al sud sono immuni praticamente dal Covid geneticamente i signori al sud, perché sono gli africani bianchi al sud, i calabresi, cioè, mi pare una puttanata pronunciata qui alla Zanzara, mi pare una puttanata pazzesca, caro direttore. No? Cioè, se è una battuta va bene, se invece è un'affermazione seria è una stupidaggine. Cioè, sì, ma insomma, poi gli africani bianchi. Io non so, tu non sei mai stato in Africa, mi sembra, tu, no? Cioè, No, sono stato in Africa e devo dire che mi è piaciuto moltissimo. Sono stato in Kenya quando lavoravo alla notte, ho fatto un servizio da Mombasa. Ma secondo te gli africani hanno voglia di lavorare, secondo te? Cioè, perché No, non hanno la cultura del lavoro, non hanno voglia, è che non sanno come farlo, dove andare. Quindi il problema è questo, è che in Africa manca la cultura del lavoro. Come manca e quindi manca la cultura. Come manca a te, caro parente? Manca la cultura, tu sei un pistola. Ma io vedo africani che lavorano indefessamente. Io vedo se africani. Non hai la cultura, non devi neanche cominciare a parlare di cultura, perché per te è come parlare di astrofisica. Ma come fai a dire che gli africani non hanno la cultura del lavoro? Ma che roba è? Basta guardarli in pistola, basta guardarli. Non hanno la cultura del lavoro, sai che vengono qua a rompere i coglioni a noi. Ma cosa rompere i coglioni? Ma se puliscono il culo ai nostri vecchi, fanno le badanti ai nostri anziani. Beh, ma no, che gli dici? Africani no, non è che ci sappiano gli africani. Ma io dico, io il culo me lo pulisco da solo, però e non sono però mica un ragazzo, che sia lungo. Direttore, la sua governante di che nazionalità è? Appunto, non è più quella, cioè, è una di colore, sudamericana, è cambiato, non è più fatto. Prima c'era anche una cinese, cioè, dottore Feltri, titolo libero molto blu. Scusa, oggi, direttore, dottore, tu hai scritto una cosa. Olso che Parenzo. Non ho capito, non sì. Ho capito la stronzata. Ma niente, è una stronzata che ha detto, lasciamo perdere. Allora, direttore. Scusami, direttore, Parenzo si è molto incazzato la settimana scorsa. So che non te ne sì. Può fregare di meno. Perché hai scritto un tweet che finiva così. Ho il sospetto sulla vicenda genovese che lo stupro mamma sia mia. Una ricca fonte di reddito. Mamma mia. È esploso il signor Parenzo, si è incazzato mamma moltissimo. Mia. Però mamma secondo mia. Me è anche sbagliato. No, perché Parenzo è anche cieco, non si è reso conto che ci sono molte ragazze che adesso vanno a bussare alla porta di Genovese per ma ottenere dei risarcimenti. Ma cosa vuol dire verità? Lo stupro, forme questa di la verità, reddito? Questa è la verità. Ma cosa quindi come vuol si dire fa? Che lo stupro è una fonte di reddito. Ma come si fa a dire una bassezza simile si dopo fa, donne si fa che hanno sofferto? La tu la verità non sai neanche. Ma che quale cos'è verità? Donne che hanno, ragazze che hanno sofferto. Cosa sai tu della storia di quella ragazza? Prendere un bigolo. Ma come ti permetti? Ma cosa dici? Guarda che hai partito la frizione, eh? Hanno preso smettila, un bigolo, ma rispetto bigolo, per ragazze violentate per ore o bloccate sul letto, seviziate, ma che dici? Poverine, porta rispetto. E perché andavano lì a farsi? Ma come perché a prendere il bigolo? Ma come coglione? Ti permetti? Ma che modo ma di parlare? Mi permetto di dire la verità. Ma quale verità? Tu, che non sai nulla non della storia di queste ragazze? Quella è una vergogna. Hai detto una tu cosa vergognosa. Un vecchio coglione che ma non capisce sì, io guarda, adesso vecchio non lo so. No, ma se c'è qui un coglione sicuramente no, non sono giovane, io guarda. Sicuramente giovane, non sono io. Vergognati per quello che hai detto lì a prendere il bimbo. Ma che modo di parlare di esistere. Ma tu che modo di parlare ignobile. Ma sei io una persona ignobile. Dopo che fai una persona schifo. È stata violentata guarda, per ore bloccata a letto. Mamma mia. E ha fatto il direttore di un giornale. Tu ma pensa sei ignobile. Scusami, scusami. Neanche per incantare il pesce va bene quello. Neanche per metterlo in una incazza molto quando qualcuno sostiene che no Mussolini... ma devi fargli chiedere scusa, ha detto una cosa ignobile tu. Sulle chiedi ragazze scusa, violentate tu, di dire tutte io. Quelle stupidaggini hai usato che delle parole vergognati. Inaccettabili vergognati, per le ragazze violentate Parenzo, ma pazzesco Parenzo, pazzesco quindi, guarda hai bisogno di qualche no, io penso che tu forse. Abbia bisogno di un aiuto perché hai detto una cosa vergognosa veramente di una badante qualcuno che ti hai aiuti a dire di una, che ti controlli sì, sei sì, un povero pistola ma, allora, non per, hai, ma dai che te l'ha detto già tutti per chiudere tutti per chiudere Vittorio per chiudere Vittorio che fa una figura no, di merda per chiudere Vittorio Parenzo si arrabbia molto quando qualcuno sostiene che Benito Mussolini ha fatto delle cose giuste. Parenzo si arrabbia moltissimo quando qualcuno certo. Perché evidentemente c'ha qualche cosa quando c'è qualche no è una ma cosa no, io, no, ma qui ha qualche ragione qui Parenzo ha qualche ragione perché Mussolini con le leggi razziali si è schierato veramente in una situazione pazzesca questo sì. E su questo gli do completamente ragione siccome io a differenza di Parenzo non sono razzista sì. Quindi non sopporto che Mussolini abbia fatto questa cosa ma negare al tempo stesso Mussolini in una fase specialmente iniziale sì. Sia stato capace di realizzare delle opere interessanti questa è cecità e siccome Parenzo probabilmente oltre ad essere stupido sì. È anche e l'assassino di Matteotti? Dai, ma che ragazzi, c'entra? Ma di che parliamo? Ma mica sta parlando di questo ma era già il fascismo nasce già come dittatura che anche Feltri ha fatto delle cose buone in vita sua avrà fatto delle cose buone pure Feltri a questo punto bisogna dire certo. Ciao direttore a presto ciao. La Zanzara no ragazzi vi prego da oggi David Parenzo diventerà Covid Parenzo è ufficiale, vaffanculo. Ciao. Mentre la nazione è alle prese con le prossime chiusure natalizie, lui sta bello bello con la sua giacchettina di flanella, col suo orologino sì. d'oro nel salotto della panella. Non è flanella. Mamma mia, ragazzi. Non è, scusami, mia, no, mamma. Precisazione importante. Non lo so, sarà cashmere. Non è, sarà cashmere. No, no, questa no. No, te lo sarà direi. Cashmere, una, no, questa è una giacca in tweed, è una giacca inglese, è una giacca, la stai penso anche vedendo, non lo so, no, ma è incredibile, insomma, dai. È una giacca inglese. E non vuole dare 500 euro. No, ai, ma cosa ai, vuol dire? Ai, è una giacca inglese. Dai. In stile di solito la usano per la prima comunione, cosa agghiacciante. Devo dire che al confronto la roba che indossa Gottardo, che notoriamente non è proprio uno stilista di lana, ho un gilet di lana bellissimo. Se Gottardo è il Como, se Gottardo è il buon gusto, sì, io no, sono no, questo, no. il direttore responsabile di Libero. Se Gottardo è il buon gusto, io sono direttore di Libero, fate voi. Sì, io ma poi, tra l'altro, il metro del buon gusto è quell'altro che sa di maglioni orrendi che sembra si abbia vomitato sopra uno e li tiene una settimana, tra ma le altre cose. Io, questo sarebbe cruciale. Sì, certo. Guarda anche la cravatta, la vedi o no? Non si vede. Gianni dalla provincia di Imperia stava parlando prima dell'intervento di Feltri. Gianni, vai, dimmi. Ciao, Gianni. Ciao ragazzi. Ciao. Dimmi, comunque dai. Agghiacciante Feltri, eh? Cioè, sì, no, roba no, lì no, per precisare, qualcuno mi dice prendi le distanze. Che devo prendere le distanze? C'è la Parenzo che, era, che rappresenta no, la Zanzara. No, no, no, io sono guarda, attaccato. No, punto. Non rappresento la Zanzara, era un modo di coerenza. No, ma che cazzo era dici? No. Non rappresento niente. Era molto, è stato molto, molto brutto quello che ha detto. Molto, ma sì, ma secondo molto. Me non si è reso conto perché battagliava con te. Non si è reso conto. Ecco che lo giustifica. No, ma secondo me non si è reso conto. Dopodiché è evidente Baglioni. Che non la penso come Eccolo lui. Qua. Ma che cazzo dici? Una non cosa dire cazzate, vergognosa, dai. Vergognosa, davvero. Ma no, ma credo che il riferimento del direttore non fosse alla ragazza stuprata, fosse a quelle che sono state scopate senza essere state stuprate. E credo siano un centinaio di ragazze in quelle feste là. Ma che è un modo di esprimersi di un direttore di giornale? È un modo di esprimersi di un direttore di giornale? Quello magari no. Gianni, dimmi, Gianni, dimmi. Eccoci, ciao ragazzi. Allora, un po' di silenzio, per forza. Parenzo, no, un po' di silenzio, calma, un po' no, di silenzio. No, è una battuta. Cioè, dai, perché... dai. Allora, ma scusate un attimo, ma intanto sono andati ad aprire le regioni di domenica. Ma come cazzo si fa domenica? È chiaro che escono tutti di domenica, anche quelli che lavorano. Sì, ma questo non ha torto, Gianni, su questo, devo dire la verità. Cioè, hanno riaperto da domenica, ma effettivamente è una follia. Cioè, potevi riaprire da lunedì, cioè non da esatto. domenica, no? Cioè, riapri una regione come la Lombardia, che comunque è una regione importante, e riapri la domenica. È evidente che la gente, dopo un mese e 10 giorni, si sente come liberata. È una sensazione che le persone provano, e dunque si riversa in più una bella giornata. Ti ritrovi la gente per strada, ma è normale, pieni ristoranti, pieno tutto, piene le vie, ma è normale che sia che su che cazzo ti stupisci per una cosa di questo tipo? Mi fa impazzire questa sto cosa. Sto zitto, guarda. Dai, sto ma zitto, stai zitto cosa? Non devi... Perché l'ascoltatore ha detto che devo star zitto, quindi sto zitto. Io no, sono no, la no, parte no, di chi no, è l'ascoltatore. No, ci mancherebbe. No, però, scusatemi, cioè, tra l'altro, sì. il ragionamento è dire che è domenica, nessuno lavora, ovviamente come minimo c'era il triplo della gente che poteva non esserci. E a questo punto lanciamo anche una piccola idea, se magari ci saranno sicuramente altre riaperture, e cioè... scaglioniamo dalla A alla L, dunque le prime 10 lettere dell'alfabeto. E questa è una proposta che ha fatto uno che piace molto a Parenzo, che si chiama Cartabellotta, il quale però dice che il periodo ideale per fare i lockdown è Natale. Cioè certo. c'è gente che ama la parola lockdown. Ma no, ma lo ama sta... la parola scusami, lockdown. Ma tu fai il giornalista, quindi dai, almeno ragazzi, leggi e ti informi su quello che accade. Ma in Olanda è... 5 settimane di lockdown nazionale. Ma non è la stessa nazionale. Cosa che intendi? Ma cosa vuol dire la parola lockdown settimane. Dentro la Germania? Londra, zona rossa. Londra diventa zona rossa. Allora, o capite che le feste purtroppo sì, sono il momento in cui l'economia corre di meno, le fabbriche sono chiuse ed è un'occasione per resettare il sistema. Per resettare le cose. Sì. Giustamente, la differenza vera è che gli italiani, sostiene sempre questo tizio che ti piace molto, Cartabellotta, farebbero la rivoluzione, che farebbero la rivoluzione con un lockdown nazionale, a parte che non lo fa nessuno, il lockdown totale. Quello che tu chiami lockdown non lo fa nessuno. No, ma non lo fa nessuno sul serio. Sono sempre tipo come? Zone arancioni. O zone rosse, tipo, non fatto, c'è, esempio, lascia perdere quelli che tu dici adesso. Lascia non perdere. Lo fanno, non lo fanno no, perché no, una, no, la Germania no, una, sta non lo fa. Varando. Non lo fa. Ci sono dei cosa servizi dire, che è come quali? La zona rossa quelli da noi, essenziali. Che è come la zona rossa da noi. Dunque, non è lockdown totale, ma beh, non è questo il punto. Il punto quasi. È un altro: danno i soldi. Come ti sei lamentato? Gottardo, diglielo tu che danno i soldi. Ma scusa, su, ma dai. Lo so bene anch'io. Questo. Ma porca puttana, danno i soldi. Danno i soldi. Cosa vuoi spiegare? In Italia non si può fare. Del governo, ragazzi, non me ne frega niente del governo. Valuto le cose quando vengono presentate e come vengono dette. Dai, fine. Giuseppe da Padova, vai. Giuseppe, dimmi. Ciao, scusa Davide, ma cosa vuol dire che l'economia a Natale non corre? Ci sono attività tipo la nostra. Parte che non è vero, vuol dire che le persone vanno meno al lavoro perché la gente è in vacanza, vabbè. Chi può ce ne sta a casa. Magari viene il negozio da me, perché io sono aperto in un centro commerciale, quindi è pieno di gente. Ma nessuno vuol chiudere il negozio, ma guarda che forse non ci siamo capiti. Il turismo e il food forse è in ginocchio a causa di questo lockdown. Ma il turismo per forza, lo sappiamo già. La voce del PIL. Ma lo sappiamo purtroppo del turismo. Comunque io comunque in realtà telefonavo per Alberto, cioè allora io voglio bene Alberto, infatti sono d'accordo con Davide. Sì, come se vuol bene a un matto, certo. In questo, esatto, no, bravo, in questo sì. momento ha un po' perso la completamente sì, la fammela brocca. Ritrovare allora, tu, no. Fammela ritrovare tu. No, Alberto, no, fammi capire una cosa, io ho 31 anni, ok, quindi sì, io all'università, al liceo, io ho trovato, avevo compagni di lezione, di corso, che si facevano dalla mattina alla sera cannoni su cannoni, ma tantissimi, e adesso sono tutti chi lavora in Commissione Europea, chi è al Parlamento, chi è in Europa, tutti drogavi, Giuseppe, scusami, qualche canno me la facevo pure io, certo. Ma adesso sei la Commissione Europea. Beh, sei ma che un no, però cosa c'entra, però non sono finito eroinomane o questa è una puttanata, cioè. Che però attenzione ragazzi, c'è un elemento molto semplice, non è che questo significa che farsi dalla mattina alla sera le canne, come dici tu, Giuseppe, porta dei risultati eccezionali, no? Che uno diventa lavora alla Commissione Europea. No, ma non succede neanche niente. Però intendo dire che nessuno delle persone. Ma certo, nessuno passa l'eroina, per fortuna. Se fosse così, non c'è nesso logico. È sbagliato dire che nessuno passa l'eroina. Moltissimi. Ma che moltissimi. Ma no, quasi tutti. C'è chiaro che fumarsi le canne e passare poi alle droghe. Logico. Non c'è nesso logico. Studiati la storia, i CERT. Ma che storia, i CERT? Ma certo degli che eroinomani c'è. Che muoiono, ma certo che gli eroinomani probabilmente overdose. Si facevano un sacco di canne, non c'è dubbio. Ma questo non vuol dire nulla. Non è che il fumarsi le canne, se fumo le canne, sì, sottovalutiamo tutto. E allora quando avrai una ragazzina o un ragazzino di 15 anni a casa, gli troverai l'asci se la marijuana. Non c'è nulla. Ma non sottovaluta. Guarda, di 2 anni e mezzo, sì, quindi bene, un giorno sottovaluta quando la troverai piena di droga. Non ho capito, quanti anni hai tu, Giuseppe? Non ho capito. 31. E hai una bambina di 2 anni e mezzo? Di 2 anni e mezzo. So che per te, Giuseppe, è un'assurdità, vero? No, perché? Ma che cazzo te l'ha detto? Se 28 so anni, 29 tu... anni, volevi avere un figlio, mica ti sto dicendo che hai fatto male. Io dico ad Alberto che è l'educazione che fa la differenza. Quando troverai dell'hashish? E che cosa? Hai paura dell'eroina? Cominci a avere paura dell'eroina? Che cazzo vuol dire? Però quando io avevo iniziato a fumare, quando mia madre una sera mi disse: ma c'hai gli occhi rossi che hai fatto? E gli ho detto: ma non fumate una canna. Spaccarti il culo. Probabilmente si sarebbe fatto di eroina. Probabilmente se gli avessi spaccato il culo, si sarebbe fatto 4 bene il giorno dopo. Ne abbiamo parlato semplicemente. Siccome vengo da una famiglia per bene, ne abbiamo parlato. E la mia educazione mi ha imposto il fatto. Ciao, Giuseppe. Ciao. Allora, ragazzi, mi faccio sentire. Ieri sera da Giletti già aveva parlato, credo, a Fanpage, ma abbiamo già dato su Giulia Napolitano, che fra poco magari cercheremo di collegarci, una ragazza immagine che ha rifiutato 15.000 euro per il lato B, cioè per farsi, diciamo, inculea. Vai. Allora, chiedevano sempre comunque di appartarsi con me, però io non ho assolutamente mai accettato. La richiesta più elevata sono stati 15.000 euro per avere il lato B. Mi hanno chiesto di fare una notte a tre. Lei ha detto no? No, assolutamente. E altre offerte? Mi hanno chiesto di passare una notte intera io e un'altra ragazza per dormire tutti nello stesso letto, ma dormire si parla di un'ora e tutto il resto è sesso. Preferisco mangiare pane e cipolle piuttosto che aprire sconvolto. Le gambe. Fermo. Da queste rivelazioni sono sconvolto. No, perché adesso voglio dire, poi adesso la sentiamo, perché sei sconvolto? La notte a tre, c'è gente che fa il sesso a tre. No, le hanno chiesto di fare una notte a tre per in cambio di soldi, probabilmente ha rifiutato. Allora, cazzo. Non ho filtri, quindi dico proprio. E lei perché riusciva a dire no? Mi scusi, no? Perché in fondo dice: io oggi sono qua, metto la faccia. E dico: potrei raccontare una cosa, in realtà prendere perché è motivata da dire no? Mi fanno schifo. Le persone, io non posso andare a letto con un uomo ed essere pagata. La mia dignità vale 1000 euro, 500 euro. Preferisco mangiare pane e cipolla che aprire le gambe e stare con la borsa Louis Vuitton al braccio. La Zanzara. Ma sentite, al posto di continuare a parlare di sti cazzo di camionisti che hanno rotto i coglioni, ma vogliamo parlare invece dei ciclisti, porca puttana? Dei ciclisti, porca puttana! Vogliamo parlarne, sì o no? Che hanno rotto i coglioni! Tutti! La Zanzara. Vado dura. Covid, lavoro, Natale, porca troia. La luce fuori dal tunnel. Cazzo, si chiama Gabriele da Rimini. Top player. Grandissimo. Allora, volevo contestare il calcolo che avete fatto per il diametro del pene del signor Barattolo. E se la circonferenza è 19, bisogna fare 19 fratto 3,14, quindi pi greco, e viene circa 6, non 12. Se è così, non sei riuscito a fare nemmeno questo, caro Gottardo, nemmeno un calcolo giusto del diametro del baratto. Hai sbagliato. Io non sono abituato a misurare i cazzi, mi dispiaccio di questa cosa, però non, a differenza di questa signorina, questo non sono abituato. Ma questo non c'entra nulla, questo era un semplice calcolo. Comunque, ragazzi, abbiamo qui una ragazza che è stata intervistata in questi ultimi giorni, prima da Fanpage, poi oggi addirittura dalla signora D'Urso, prima ancora dal signor Giletti, la signora Giulia Napolitano, che è una ragazza in immagine che diciamo ha frequentato. Subito che non c'entra nulla con il grande presidente emerito Giorgio Napolitano. Ma no, ma diciamo non c'entra, che c'entra, ma non questo, vorrei scusa. Che si confondesse, guarda, ma perché no, magari qualche uno come ascolta magari Radio 24, accende per caso, dice abbiamo in collegamento Giulia Napolitano, uno dice ah beh, si può pensare, no. Dici, si può pensare. L'equivoco purtroppo si può creare visto il tipo di radio, fosse Radio Bru Bru probabilmente no, ma l'equivoco. Buonasera Giulia, come stai? Buonasera, tutto bene, voi? Buonasera signora. Beh, non c'è male, non c'è male. Senti, io mi sono abbastanza stupito del fatto che una ragazza disinvolta come te, per carità, io dico disinvolta, nel senso che fai la modella, eccetera, eccetera, fai la donna immagine, hai fatto, anzi, perché non lo fai più, sei andata a diverse feste, esatto. Dove ti pagavano, no, per stare a quelle feste. Vabbè, lì, la tua agenzia, non so chi, insomma, ti pagavano per stare là, niente di male. Tu abbia rifiutato 15.000 euro, questo un po' mi ha stupito, devo dire la verità, perché 15.000 euro è una bella cifra. Per il tuo, esatto, anche tu hai detto, beh, mi avrebbero fatto comodo quei soldi, no? Sostanzialmente per il tuo sedere, diciamo, per il tuo culo. Esatto. Questo è il punto fondamentale. Però ho una novità sui 15.000 euro che si sono raddoppiati in questi due giorni, perché mi ha scritto un imprenditore proponendomi 30.000 euro. Stupendo, mi ha detto stupendo. no, guarda, 15 sono un'offesa, sono pochi, se vuoi una notte insieme, lato B 30.000. 30.000 euro per il lato B, per il culo della signora Giulia Napolitano. Però io voglio dire, ci stai pensando oppure no? Oppure già mai? No, mi dispiace, non glielo do comunque. Però scusami Giulia, posso farti una domanda indiscreta? Ma ti voglio dire, una cosa è essere, come dire, tu sei, da quel punto di vista sei vergine, cioè nel senso, siccome si è parlato molto di questa offerta che ti hanno fatto, cioè una cosa è, dice, tu non hai mai dato, il lato B non l'hai mai dato, via, zero. No, io nella mia vita do quello che mi pare, anche le orecchie, ma chi dico io senza farmi pagare? Questo no, ma certo, quello non c'è dubbio, però volevo sapere se c'era un pregiudizio perché tu nei confronti dei soldi... No, non ho un pregiudizio nei confronti del lato B nella mia vita privata, però non ti do neanche un dito del piede se mi devi pagare con quest'area da sbruffone. Perché vuoi il posteriore? No, anche no. Manco per. Però scusami, per Giulia, è abbastanza strano. Io ci credo, per carità, cioè, che una persona che fa la donna in maglia, cioè, sei un'eccezione, perché le persone che venivano alle feste con te, diciamo, sì. O che frequentavano, eccetera, molte. Erano sostanzialmente facevano l'escort, esatto. O comunque, oppure avevano droga in cambio, ottenevano droga in cambio di sesso. Questo tu hai raccontato, esatto. Sbaglio? Sì, è così assolutamente. Il 99% delle ragazze che frequentano feste private, che non sono altro che festini, comunque si concedono per la droga, si concedono per il denaro facile. Il fatto del perché io non l'abbia fatto è perché evidentemente ho un po' più di dignità di queste ragazze, che non giudico, perché ognuno nel proprio corpo fa quello che gli pare, certo. Però sinceramente non mi ci vedo a cioè, tu essere chiara, a trombare con uno per 1.000 euro sinceramente mi fa abbastanza schifo. C'è una soglia, siccome sei una che non pensa, cioè non credo che hai dei pregiudizi su questo qua, cioè non hai vissuto. Ma hai raccontato che hai vissuto insieme a una mia prima ex coinquilina. Era una escort, una vecchia escort. Ma un lavoro normale, nessuno, niente. Ma perché normale? L'escort è un lavoro normale, ragazzi, cioè normale. un lavoro normale come un altro, poi uno lo fa per un periodo, poi non lo fa più, saranno, cioè, felici i genitori sapere che la figlia fa l'escort. No, lei non fa l'escort. No, non lei, ho detto la vicina, l'amica. La coinquilina. No, perché lei poteva farlo tranquillamente, come avrei potuto farlo tranquillamente pure io, perché io sono siciliana, se faccio qualcosa a mia mamma mica lo viene a sapere, semplicemente. Beh, io a lei la avvertivo su tutto. Lei non è che stava nel suo paese, la ragazza era calabrese. Se stava al suo paese era molto ma non è questione più di avvertire, quando uno è grande non è che deve avvertire la mamma che cosa fa, ma voglio dire, no, però comunque però i genitori non lo sapevano, mi non sembra lo incredibile. Quanti anni hai tu, Giulia, scusami? 21 anni. E tu quando avevi, cioè, ma alle cosa feste... sogna per il suo futuro? Lei non lo riesco a capire. Ma vuole fare, la modella, proseguire a fare il suo lavoro, che cazzo? Io voglio fare la fotomodella ancora per un po' e poi sinceramente voglio aprirmi un ristorante, perché mi piace mangiare e mi piace la tranquillità. Lo vedi, che tra l'altro non è manco una di quelle proprio filiformi, anche piuttosto, no? E anche in carne la signora Napolitano, cioè non è una di quelle... Ha le forme. Però voglio dire, tu sei andata a un sacco di feste, tra cui anche le feste di Genovese, inutile che ti facciamo ripetere adesso le stesse cose. No, una festa solo per un'ora, sì, esatto. Ma quanta droga girava? In generale alle feste, poi anche a quella festa, se vuoi dire... Allora, in generale alle feste ne gira sempre parecchia, perché comunque stiamo parlando dell'organizzatore o organizzatrice, perché tutti stanno sottovalutando il fatto che soltanto ormai col fatto di Genovese un uomo, Genovese ha stuprato, solo Genovese organizzava i festini. No, ci sono tante ex escort grandi andate con l'età che sfruttano i contatti che si sono fatti tutta la vita, offrendoli alle ragazze che poi hanno 18, 20, 25, 30 anni, chiedendogli la percentuale su quello che loro hanno guadagnato quella sera, quella festa organizzata da loro. Con, cioè, una specie di maîtresse, diciamo. Esatto, sono maîtresse, ma le maîtresse conoscono le esigenze sia degli uomini che vengono a queste feste che organizzano loro, sia delle ragazze, quindi la droga... purtroppo gira parecchie tipi. Ma tu, spiegami una cosa, ma tu spesso vedi delle ragazze che, cioè, non prendono manco i soldi, prendono solo la droga per farsi e in cambio scopano? Questo è il punto? Sì, le ho viste. Sì, ma sì, ci sono, ragazzi, è pieno, purtroppo è pieno, cioè nel senso purtroppo non ci dobbiamo stupire di questo. Ieri sera ho detto una cosa molto semplice, qualcuno mi ha criticato, dici ma come fai a dire che è normale? La signora D'Urso, ho detto una cosa molto semplice. Ma cosa, non stai mai a casa tua? Posso dire una cosa? No, frequenta posti normali. Ho detto una cosa molto semplice, a parte che non si può uscire la sera, per cui che cazzo faccio? No, frequenzai a casa, leggiti un libro. Allora, ho detto una cosa, noi ci stupiamo, se non fosse stato per lo stupro, nessuno avrebbe parlato di queste feste. Cioè, però lo stupro ha gettato la luce su alcune cose che in Italia esistono, come non solo in Italia, immagino anche in altri posti. Cioè, esistono delle feste dove persone dirti ricche. Trovo incredibile una cosa. Magari questa nostra amica, che non chiamo Napolitano perché sennò si confonde col presidente emerito, la nostra amica Giulia. Giulia. Ecco, trovo incredibile che dello stupro del signor Genovese, dello start-upper genovese, la politica non si sia occupata. Ma che vuol dire? Cioè, ogni volta che c'è uno stupro di un immigrato, No. La politica si butta a capofitto. Senti, ma secondo te la ragazza ha qualche responsabilità, perché si è andata a mettere in una situazione strana la ragazza, quella oggetto dello studio? Allora, ognuno è responsabile di tutto quello che fa, di dove va, però sicuramente non se l'è andata a cercare, perché non è che se tu vai in un festino stai dicendo stupratemi. Tu vai a un festino e magari ti offrono 500 ma euro e in quel momento ti va di darla, la dai e ti fai pagare. Se poi non ti va di darla, tu non mi puoi violentare a me. Se no, è no. Sì, a e poi diciamo la verità. No, esatto, brava. E poi diciamo la verità: non è che tutte le feste a base di droga, a base di scambio tra sesso e denaro, vanno a finire con uno stupro. Cioè, Io ho frequentato una. Però hai rischiato tu? Hai rischiato? Allora, io ho rischiato, ma non in questo ambiente, ma nel mio ambiente fotografico. A 8 giorni dal compimento dei miei 18 anni sono stata sequestrata per 3 giorni e picchiata per 3 giorni da un fotoamatore di Napoli perché mi voleva tutta per sé, se la mia Barbie, ero bionda all'epoca, ha fatto questa cosa orribile. Ma t'ha stuprato? Non ha abusato di me a livello sessuale, però comunque violenza fisica, perché non volevo restare con lui a Napoli, perché... mi volevo sentire con una mia amica giù perché aveva paura che io, insomma, avvertissi qualcuno, insomma, le ho prese. Mia mamma non ha saputo nulla, l'ha saputo dopo un anno più o meno, e quindi comunque in quell'ambiente io ho rischiato, nell'ambiente delle feste, che io sappia no, poi magari mi è andata bene perché sono stata anche a una festa dove l'organizzatore o il cliente era un malintenzionato. Cioè, ma si sapeva che Genovese era uno che aveva gusti sessuali un po' particolari, o no? Io Genovese non lo conosco, quando sono stata a questa festa ci sono capitata perché una mia amica, amica, oddio, conoscente, milanese, mi ha detto ti prego dai andiamo, ti prego, sai che a me piace divertirmi in un certo modo. Sei stato un'ora, hai visto droga in giro, immagino. Sì, esatto, lei ha sniffato tutta l'ora, perché lei infatti mi ha detto ti prego sai come sono fatta io, mi piace divertirmi in un certo modo, e per divertirmi ha pippato tutta l'ora e basta. Tu e dopo un'ora te ne sei andata. Fermi tutti, ferma là, adesso torniamo. La Zanzara. Allora, una mia amica ribadisce che anche le donne si masturbano, e soprattutto le donne post scopata, cioè è una cosa vera, ma non è che non sono soddisfatte lo stesso, e quindi cioè, vanno a casa, magari si masturbano pensando alla grande scopata che hanno fatto. Amico mio, allora ragazzi, abbiamo con noi Giulia Napolitano, che showgirl, non è parente del presidente, modella, e che ha partecipato a un sacco di feste private dove circola un sacco di droga. Ma parliamo di una cosa scontata. Bellissimo, ragazzi, feste private, un sacco di droga. Ma appunto, dico, se parliamo di cose scontate, cioè, di cose che non, se non ci fosse stato questo episodio qui, nessuno ne parlerebbe in maniera così esplicita. Parlato, esatto. Ma no, sì, nessuno avrebbe parlato anche di Giulia Napolitano, probabilmente. Insomma, sì, nota finora solo per aver messo. Costato il culo al Colosseo, vedo sulle cronache. Sì, ha fatto benissimo, ha fatto benissimo, perché un po' di sciacallaggio lo abbiamo fatto, insomma. Ma che c'è tra sciacallaggio? Che c'è tra sciacallaggio? Abbiamo avuto un tempo, perfetto alla Pippo Inzaghi, per eri in area, hai visto che quella è stata stuprata e tac. No, che c'entra? Dai l'idea che quelle altre sono delle troie e tu no. Giù un attimo. Allora, quello è un servizio fotografico fatto con un giornale come delle interviste di questi giorni. Scusami un attimo. Al Colosseo l'ho fatto perché, visto che la politica ci lascia in mutande, a questo punto me le tolgo e ci vado pure in giro, visto che si può fare per legge. Per lavoro, esatto. In questi giorni, avendo partecipato come ragazzi Immagine Festa, ha raccontato la sua esperienza. Sì. Qual è il problema? Facciamo passare il messaggio che Giulia è la santa e quell'altra sono quattro troie. Guarda che non è così difficile scoprire. Non sono una santa, nella mia vita personale non sono una santa, però semplicemente non mi va di darla per soldi. Posso farlo? Certo, ragazzi, ma sarebbe facile tra l'altro scoprire quella che è stata stuprata, invece un po' altre, no. Bravo, non ha detto che sono troie, ha detto semplicemente che fanno una scelta diversa dalla sua, ragazzi. Ma perché perché gli devi dire che sono troie? Cioè, non ho capito, mica ha detto no, che sono troie. Perché il messaggio che passa è che si può dire di no, e quindi quelle altre hanno detto di sì, no. per converso, cosa? No, è evidente questa cosa. Se lei le giudica troie, questo è un problema tuo. C'ha ragione la signorina. Non c'è nessuna speculazione. Però scusami, no, Giulia, io voglio capire una cosa. Ma intanto è arrivata questa offerta da 30.000 per il culo, diciamo, sostanzialmente. Sì, già declinata. Io però posso dire, io ho qualche riflessione. Se non sei più vergine, diciamo, analmente, io ho qualche riflessione, come pare che tu, insomma, più o meno l'hai detto, che nella vita privata fai quello che ti pare, dunque anche quello, immagino. Sì. Io qualche riflessione sui 30.000 li farei. Poi dipende dalla persona, però certo. Perché se non mi piace non mi apro. Se non ti piace non ti apro. Pensa che notizia importante. Non mi fanno aprire, ho questo difetto. Ragazzi, ognuno, cioè Gottardo che non ci crede, per esempio. Secondo me, perché devi dire che fa la mignotta mentre non fa la mignotta? Scusa, non ho capito. Ma chi lo dice? Mai sospettato. Però scusami un attimo. Gottardo, forse sì, amica. se fosse donna lei, a questo punto, per non credervi, forse la darebbe per denaro, se non ha tutta questa... Ah, quello è sicuro. Lottardo sicuro, per sicuro. Denaro fa anche sicuro, di peggio. Allora è quello, allora lei è più aperto di me. Certamente non andrei in giro a vantarmene, è una cosa scontata. Senti, no? che proposte... No, non è scontata, non è scontata. Ah, che proposte, che proposte ti hanno fatto? Le daremo una medaglia, le daremo la... Ma non vuole la medaglia, sta raccontando una cosa sua, non vuole nessuna medaglia, non pensa di essere una santa, tutt'altro, sta raccontando una cosa sua. Ma se lo racconta da tre giorni su tutti i TV... Ma sono cazzi, sono... Complimenti nostri, alla gente, ma sono cazzi nostri. Alla gente, è riuscito a piazzarlo persino alla zanzara. Senti, ma non dire cazzate, l'ho cercata io. Scusami, Giulia, perdona, ma purtroppo. Io mi diverto. No, mi lo diverto. So che ti diverti. No, senti, perdoni, poveretto. È uno che vuole sapere alle persone bigotte. Mi piace far sapere all'Italia che è bigotte, chiude, si tappa gli occhi, si tappa le orecchie. Che esiste questo mondo e che tante ragazze ci vanno a finire, si fanno una striscia e poi buonanotte ai suonatori, la vanno a dare pure per la droga. Quindi più se ne parla e meglio è, visto che se non fosse stato per Genovese, sì, qua non si sarebbe parlato. Questo è vero. Ci continueranno. Perché non sarebbe avvenuto nulla di tutto ciò. Però in questo caso cogliamo l'occasione nel dramma di parlare di un argomento delicato che mi sembra il caso di affrontare, visto che ormai tante ragazzine hanno un eccesso di libertà che può portare anche a questi ambienti. Sì, poi secondo me, poi posso dirti, superati i 18 anni, uno può fare quello che vuole del proprio corpo, della propria perfetto vita. Cioè, Dio, cioè se uno Dio decide di darla via o comunque di fare la prostituta, la escort in cambio di qualcosa, sennò fai, poi, una cosa, poi c'è lo spaccio di droga che è un altro discorso, naturalmente. Spaccio di droga, assunzione, a me dispiace per le ragazze che si sono... Cioè tu non te, andate... non te la sei mai fatta, una pippa di una striscia di cocaina, no, non te la sei mai fatta? No, ragazzi, su questo io ho il terrore, perché comunque sono cose che ti tolgono la lucidità e sono dipendenze. Io non mi voglio trovare, scusate se lo dico sempre, col culo a terra per via della droga, perché io divento dipendente e ogni centesimo che mi faccio lo vado a dare al pusher. No, non è una cosa che rientra proprio. Senti, nella... ma le persone, le ragazze che vanno lì lo fanno anche perché magari non vogliono sentirsi un po', vogliono sentirsi alla pari, perché siccome magari sono chi le recluta, magari è un, sì, lo fanno anche per quello? Per sentirsi alla pari di chi? Di chi le recluta? Sì, sì, sì, di chi le... Ma allora, sicuramente se ci sono persone che le reclutano, che fanno uso di sostanze, non tutti si spingono, però magari dai, fatti una striscia, te lo dicono. Quindi non tutti quanti, però anche per battuta c'è chi lo fa, e se sei una ragazza di 18 anni, sei maggiorenne, però sei sempre una ragazzina piccola. Anch'io sono una ragazzina ancora. Beh, c'hai 21 anni, sì. Beh, esatto, mia, sei sì molto volubile, magari dici vabbè dai, che ci fa, sti cazzi, mi faccio una striscia, che ci fa, mica mi sto bruciando tutti i neuroni, dai una, che adesso mondo, vedete, e ti trovi schiava della droga. Senti, quindi... senti una cosa, ma il sesso, il sì, in queste pece, cioè, si fa, tu hai saputo anche di feste dove si fa sesso sul posto proprio? Sì, tutte le feste. Allora, a te per esempio, che offerte, che proposte ti hanno fatto? Oltre a quelle che... Oltre a quella, ci sono state persone, dai, passiamo tutta la notte insieme, dormiamo io e Tizia, io, tu e Tizia, per sì, dire, che sì, ne so, Esmeralda, così facendo macacchio, e dormiamo tutte e tre, poi facciamo tante cose belle, il giorno dopo vi porto a fare shopping, vi do 1.000 euro, stiamo insieme, però vi voglio vedere mentre mi faccio una sega, cioè io qua parlo senza filtri, sì, questo sì è quanto. Sì, sì, mi hanno detto, dai, mamma, ti guardo, mia, mi fate, voi fate. Vabbè, tu non l'hai fatto, però c'è gente che lo no fa apertamente, c'è gente che lo fa senza problemi. Assolutamente, assolutamente. Vabbè. Gente che si guarda i porno e nel frattempo, per esempio, guarda un porno lesbo, poi vuole rivedere la scena che sta guardando, che ne so, nel tablet, sì, nella realtà, con due ragazze davanti. Con due ragazze davanti, sì. E la, esatto, e la storia del prete? Dove l'hai visto sto prete? A Roma. C'era questo prete che ha fatto stendere tutte e tre queste ragazze sul letto con una striscia di cocaina sul pupe. Poi vabbè, lui la sniffava a turno e poi vabbè. Poi se le scopava? Ci stava, esatto. Sì. Cioè, tu hai visto la scena che se le scopava? Pure. Sì. Sto prete, ma sei sicuro che era un prete? Sì, 100%. Assolutamente, 100% sicurissimo. È vero, beh, non ho altro da aggiungere. Cocaina sulla figa sostanzialmente, sniffava e poi se ne trombava. Esatto, boh, esatto. Vabbè, ma gliela faceva? Prima rapporto orale, prima da Suburra, e poi trombata. Esatto. Ma una scena da Suburra, ma praticamente. Ma riusciva a farlo o no? Perché qualcuno dice che con la cocaina non si tromba tanto bene. Allora, cioè... No, è vero, inizialmente io questa cosa mi sono fatta la mia cultura, me l'hanno detto questi ragazzi, inizialmente sei un cavallo, come dicono loro, poi non ti si alza più. Questo prete aveva un oddio, non aveva niente di entusiasmante da vedere, però comunque se l'è fatte, quindi ancora gli si alzava. Cioè, qualcosina ce l'aveva. Qualcosa dice. C'era di qualcosa tipo. C'era di qualcosa, di, qualcosa di duro c'era, cioè, qualcosa, esatto. Qualcosa di decente c'era. Ma l'hai visto con i tuoi occhi? Cioè, non era. Sì. No, non è una cosa riferita, l'ho visto io. L'hai visto tu. Dunque, il prete, che dotazione aveva? Più o meno, cioè, decente. Ma no, ma così per immaginarmi la scena. Ma uno pieno di sotto Natale, pieno di cocaina, pieno di cocaina che mette piselle dentro tre. Donne, mia, non so, ragazzi, è una cosa incredibile. Mamma mia. Ciao Giulia, ti abbraccio, grazie. Ciao, grazie, presto. Grazie ciao. A voi. Ciao. Ciao. Ma ciao. Grazie di che cosa poi? Grazie per le porcherie. Ma io ringrazio uno che dice delle porche. Vai. Allora, ragazzi, Carlo dalla provincia di Lecco. Vai, vai, vai. Ciao, vi prego, ditemi. Che era un imitatore, non era il vero Feltri. Cosa? No, quando? Era quello vero, purtroppo. Guarda, sì, sì, no, era vero. Allora, ragazzi, qua siamo oltre il limite. Adesso a me non mi frega un cazzo. Queste che vanno alle feste, pippano, trombano. Come con i... Non mi interessa, non mi sconvoglie questa cosa. Ma non si può dire a una radio che il bigolo non ha mai fatto male a nessuno. Io ho a casa tre bambine, ma come cazzo si fa? Ma no, capito, ma quella era una battuta. Scusa, Cruciani, no, una battuta mentre si parlava di uno stupro e neanche contestualizzata rispetto a quel singolo episodio. Ma comunque gli ha risposto Parenzo, che cazzo vuoi da me? Da solo, ma c'è da solo, ma non scusa, ma la prima con te. Io ho lasciato combattere Parenzo Confetti, che cazzo volete da me? Scusa. Non ho capito, però aspetta. Ragazzi, c'è anche una grammatica da rispettare. Ma tu hai una certa simpatia per determinati. Certo, soggetti. Ma non la condivido però, questa solito, cosa qua. Non no, la condivido. Se avessi detto io con la minchiata tu mi avresti sbranato. Ma, no, ma l'ha sbranato Parenzo, ma qual è il punto? Questa trasmissione cosa... è rappresentata anche per un 30%, se non di più, dal signor Parenzo. No, no, no, 02, 01. Per la libertà, permettimi di dirti sinceramente che da te mi sarei aspettato un intervento a gamba tesa. Ma l'ha fatto Parenzo, ma l'ha detto che era una porcheria, di vergognarsi, che devo dire io in più? Comunque, vuol dire, se vuoi qualcosa da me te lo dico subito, io chiaramente non penso quello che ha lasciato mamma intendere mia. Feltri. Mamma cioè, mamma dai, ragazzi. Cioè, e poi cos'è che aveva detto a proposito del fatto che pigliano soldi, che lo super è diventato un scusami. Quella è un'altra cosa, quella è un'altra cosa. In alcuni casi è fonte di reddito, fonte di reddito. Non reddito, si chiama fonte di sì, reddito. Sì, ma grazie al cazzo, lo sa benissimo che è risarcimento. Diceva che in alcuni casi gli stupri si trasformano in fonte di reddito. Ha oggettivamente perso ogni freddo. Scusami Carlo, se i soldi in ballo sono quelli là, 5 milioni di euro per la ragazza, oggettivamente è una grande cifra. E dunque in questo senso lui ha parlato di fonte di reddito. Ho capito, sempre di stupri si tratta, non c'è dubbio. Però in questo momento mi pare che lei si sia concentrata, la ragazza oggetto dello stupro di Genovese, si sia concentrata sui soldi del risarcimento più che sulla cosa, no, sul da principio. Chi è stata consigliata, infatti sembra, da quello che sappiamo, sembra. Ma io non voglio entrare nel merito di quella vicenda lì. Siccome si è parlato in generale che un bigolo non ha mai fatto male vabbè, a nessuno, ma quella è una cazzata, quella è una cazzata, ecco. Quella è una cazzata. Vabbè, ma ragazzi, io quella è una cazzata che però secondo me è una battuta, Carlo. Secondo me posso dirti, non è riferita chiaramente a una vicenda di stupro. Lui dice vabbè, ma l'ha sempre detto un bigolo non ha mai fatto nessuno male a nessuno, nel senso ma è una cazzata chiaramente, se è riferita a uno stupro è una cazzata, cioè è chiaramente una cazzata, Carlo. Comunque gli ha risposto Parenzo, che cazzo volete da me? Ciao, ciao. Ciao. Davide dalla Spezia, vai Davide, cosa dimmi. Pronto? Dimmi. Ciao Davide, ciao Gottardo. Buonasera. No, dimmi. Volevo dire solo una cosa, che confermo quella cosa lì che con la cocaina non scopi proprio più, perché io purtroppo la uso alle prime due righe e ti senti un coro. Come la usi, scusa, non ho capito. Sì, sono un dipendente io purtroppo. Scusa, tu sei Davide dalla Spezia, tu sei? Sì, Davide, sì. Tu sei... la birra, ti siamo già sentiti tre volte. Ma non lo so, non mi ricordo adesso esattamente. Cioè, Davide, tu sei dipendente dalla cocaina, stai e dicendo. Chiamo ovviamente esattamente. No, ragazzi, quali altre droghe ha usato il nostro amico dipendente dalla cocaina? Guarda, caro Gottardo, il tuo amico dipendente dalla cocaina non ha mai usato altre droghe. E ho 39 anni, Beh, perché non vai? Perché non cerchi? Fino a tre anni fa non sapevo neanche che cos'era la droga. Io. Scusami, scusami, Davide, perché non cerchi, come dire, di curarti in qualche modo, di smettere? Intraprendere un percorso terapeutico. simpatico. Sì, una cosa di questo tipo, che cazzo ne so, qualsiasi cosa. Guarda, oppure ti piace, che cazzo ne so, cioè, non, che ti piaccia, non c'è dubbio. Mi piace, non c'è dubbio, però sì, avevo già pensato comunque di intraprendere un percorso. Cioè, dipendente che vuol dire, quanto te ne fai? Non ho... Tutti i giorni. Cioè, tutti i giorni quanto? Quanto? Due grammi. Mamma mia. Vabbè, ragazzi. Sì, in tre anni ho perso lavoro, ho perso moglie, ho perso tutto. Mm. Adesso mi sono deciso di rimettermi in sesto, di intraprendere questo percorso che avevo già provato. Ma con chi? Con una comunità terapeutica. Dunque sei già dentro una comunità terapeutica? No, ora no. Davide, ti chiamo domani, fermo là, ti chiamo domani. Fermi sì. Tutti, italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.